e anche il valore di sintesi conclusiva dei lavori. E per la seconda volta noi ringraziamo il professor Prodi perché ha accettato di sostituire il professor Mancini, indisposto. No, no. È indisposto? Ma, sì, ma ha queste sue... Comunque il professor Prodi, direi con una sollecitudine mirabile, nel frattempo, non nell'eternità, ha supplito con un testo addirittura già ciclostilato che voi avete nelle mani. Mancano le note, e però lui l'ha già approntato, quindi noi potremo seguirlo. Ha cambiato un po' il titolo, come voi vedete, rispetto a quello proposto prima. No, è uguale. L'analogia fra teologico e politico, no, voglio dire, dall'analogia alla storia, il sacramento del potere, ha un po' perlomeno reinterpretato, ecco, il titolo di Mancini. Ah beh, il titolo di Mancini, no, per carità, io non sostituisco Mancini, tengo bene a precisare, lo sostituisco materialmente, insomma, ecco, ma il mio prodotto è per forza diverso. Il bello è questo, che non riesco a presentarlo perché, come ho detto altre volte, non ho memoria dei suoi libri, che sono però, mi pare, su questa linea di, direi, di pescare dal teologico al, per passare al politico, ma soprattutto per ripescare il teologico dal di dentro del politico. Quindi comunque voi conoscerete probabilmente meglio di me i testi del suo studio, e sappiamo che è rettore, cos'è. No, no, non sono proprio niente. Basta, più niente. Niente, niente, niente. L'istituto Vabbè, sì, beh. Sì, quello sì. Sono responsabile dell'istituto. Le presentazioni sono così informali che siamo contro ogni teologia del potere inteso. Io sono il presidente di che cosa? Dell'istituto di scienza religiosa. Bene, basta. Scusi di questa familiarità con la quale noi abbiamo introdotto, ma per svegliare qualcuno e per attirare qualche altro. Ad ogni modo, così, io non sono appunto un filosofo, non sono un teologo, anche se sono stato cooptato fra 63 persone, insomma, indegnamente nei giorni scorsi. Sono uno storico, un artigiano storico, per meglio dire, insomma, cioè, se posso definire, insomma, uno che cerca di unire le idee ai fatti, come appunto un ciabattino, la suola, la tomaia della scarpa, eccetera, con dei chiodi, con delle ipotesi che possono in qualche modo tenere insieme il tutto. Ecco, no, la cosa più importante è questa, cioè che non sostituisco affatto Mancini, perché appunto Mancini ha impostazione appunto teoretica che io non ho. Ecco, ho creduto però di accedere a questa richiesta che mi è stata fatta perché la ricerca che sto facendo da alcuni anni sul giuramento credo rientri proprio in questo problema in modo centrale. Ecco, non è assolutamente, credo, secondario rispetto a questo snodo tra politica e sacro che è al centro dell'interesse e dell'attenzione di oggi. Come premessa al mio intervento, ecco, che io riassumerò, ecco, perché se dovessi leggerlo tutto il testo che loro hanno probabilmente sarebbe superiore alle 2 ore, quindi io chiedo poi di leggere e magari appunto di tenere presente nella discussione o di farmi pervenire poi dopo osservazioni, insomma, ecco, su questo testo, e mi limito invece a sottolineare quelli che secondo me sono i punti principali. Partivo da una premessa sul rapporto, insomma, ecco, tra teologia e politica, o sulla teologia politica, insomma, e mi collegavo non per piaggeria, le parole del cardinal Ratzinger, ecco, che dico mi sento di condividere profondamente, nonostante appunto le polemiche poi su alcune cose, su alcune posizioni. Diceva Ratzinger in un suo recente studio: il cristianesimo, in contrasto con le sue deformazioni, non ha fissato il messianismo nel politico, Si è sempre invece impegnato, fin dall'inizio, a lasciare il politico nella sfera della razionalità e dell'etica. Ha insegnato l'accettazione dell'imperfetto e la resa possibile. In altri termini, il Nuovo Testamento conosce un ethos politico, ma nessuna teologia politica. E Ratzinger poi sviluppava queste cose in un brano più lungo che qui riporto, in un suo discorso ai deputati del Bundestag tedesco, in cui tra l'altro dice: la moderna idea di libertà è perciò un legittimo prodotto dello spazio vitale cristiano, essa non poteva svilupparsi in nessun altro ambito se non in esso. Bisogna anzi aggiungere, essa non è affatto piantabile in qualsiasi altro sistema, come si può constatare con chiara evidenza nel rinascimento dell'Islam, eccetera. Dal punto di vista pratico ciò sta a significare, solo lì dove si è preservato in qualche forma il dualismo di Chiesa e Stato, di distanza sacrale e politica, vi è la condizione fondamentale per la libertà. Dove la Chiesa diviene essa stesso Stato, la libertà va perduta. Ma anche là dove la Chiesa viene soppressa come istanza pubblica e pubblicamente rilevante, viene a cadere la libertà, perché lo Stato reclama di nuovo per sé la fondazione dell'etica, eccetera. Lungo brano che qui è riportato integralmente per comodità appunto degli uditori, ma che sorvolo, i punti centrali sono questi. Naturalmente non tutte le deduzioni che Ratzinger trae da questi principi sul piano delle valutazioni concrete poi della storia della civiltà europea e della crisi odierna della politica possono essere condivisibili, ma penso che esse siano quanto mai fertili per una revisione storica che ci spinga a cercare, al di là dell'illuminismo, alcuni elementi fondamentali del nostro sistema liberale democratico e quindi a cogliere le radici più profonde, non soltanto le manifestazioni più esterne della sua crisi, e a uscire anche dagli schemi nei quali mi sembra troppo impantanata la riflessione teologica ed ecclesiologica, cioè ci sono dei riflessi, credo, anche su questo piano. Oggetto della mia ricerca, dicevo prima, da alcuni anni il giuramento come base del patto politico nella storia dell'Occidente, come è stato vissuto concretamente il punto terminale e ultimo del rapporto sacralità-potere. Non posso naturalmente in questa sede che riassumere e individuare alcuni punti nodali. È una ricerca che dovrà trovare una sua sistemazione molto più ampia di questo primo paper, di questa prima cosa che sottometto alla vostra attenzione. Il punto di partenza è questo, che oggi siamo la prima generazione che, nonostante la presenza di forme e liturgie del passato, vive la propria vita collettiva senza il giuramento come vincolo solenne e totale, sacramente ancorato, di appartenenza ad un corpo politico. Questa è la constatazione che faccio, cioè che la crisi della politica oggi non è solo una crisi appunto di istituzioni, non è una crisi esterna, ma è una crisi che ha la sua radice appunto antropologicamente, ecco, in questo rapporto tra uomo e uomo, che per la prima volta è disancorato, io credo, dal giuramento. Il problema è stato studiato non per nulla per la prima volta appunto nella crisi che ha seguito la fine dell'impero tedesco, è stato un discepolo di Carl Schmitt, Friesemann, a impostare in termini nuovi il problema del giuramento alla fine degli anni 20, e credo che questo non sia senza senso appunto per il nostro discorso, ma devo tralasciare appunto in realtà tutta la storiografia, tutta l'impostazione bibliografica sull'argomento. Rimane il fatto che a tutt'oggi non abbiamo sistemazioni né storiche né sistematiche, insomma, sul problema del giuramento e come base del patto politico. Insomma. Do per scontato appunto in realtà la definizione di giuramento, come viene data, insomma, come invocazione della divinità a testimone della garanzia della verità di una dichiarazione, affermazione o di una promessa, dell'impegno di compiere determinate azioni, invocazione con la quale il singolo accende un rapporto non soltanto con le altre persone, ma con l'intero gruppo al quale appartiene, ponendo in gioco la sua vita fisica e spirituale in base a comuni credenze che attingono alla sfera della metapolitica. Questo è la definizione, diciamo così, generalmente accettata del giuramento dal punto di vista metastorico in qualche modo. Quello che voglio aggiungere è questo, che non è sufficiente parlare del giuramento come istituto immobile in una durata così lunga da attraversare tutto il corso della nostra storia delle civiltà, dalle civiltà preclassiche sino ai nostri giorni, ma che il giuramento assunto in Occidente valori particolari e diversi in relazione alle scelte teologico-culturali del cristianesimo occidentale e al dualismo istituzionale che si viene instaurando tra la Chiesa e l'entità politico-statale, particolarmente a partire dalla riforma gregoriana dell'XI secolo. La tesi centrale, infatti, di questa mia ricerca, che come dico qui espongo solo in uno schema, proprio in un indice estremamente sintetico, che l'istituto del giuramento si è sviluppato nel suo rapporto col cristianesimo occidentale in una forma molto diversa da quella conosciuta in altre civiltà, ma dotata di una sua dinamica, di un suo sviluppo interno. E questo lo collego proprio al problema centrale da cui sono partito, della estraneità del cristianesimo alla teologia politica e della sua sostanziale ambiguità nei confronti della politica stessa. La desacralizzazione della politica come frutto del cristianesimo occidentale, questa credo che sia la questione fondamentale che mi accompagna in questa ricerca e credo che sia abbastanza appunto centrale anche per i discorsi che sono stati fatti ieri e oggi. Allora vediamo questi punti schematici. Il primo è come il giuramento diventa sacramento. Cioè nell'alto medioevo noi abbiamo questa cosa fondamentale, questa novità fondamentale. Il giuramento diviene nell'alto medioevo europeo un sacramento cristiano facendo confluire in sé la tradizione classica e quella ebraico-cristiana e assorbendo elementi del costume germanico dagli istituti che dal giuramento vengono faticosamente superati come l'ordalia e il giudizio di Dio. Ecco, se devo schematizzare appunto abbiamo questa prima fase grosso modo tra il V e l'VIII secolo, insomma, in cui il giuramento ha la sua sacramentalizzazione. Ecco, per premessa soltanto, e non potendo fare un discorso ampio e non avendo nemmeno poi la competenza di farlo, ho portato in epigrafe questi tre passi, uno del Deuteronomio, tu temerai Yahweh tuo Dio, tu lo servirai, dipenderai da lui e giurerai in suo nome, cioè il giurare in nome di Dio è il patto politico, insomma, del popolo di Israele, insomma, detto proprio in sintesi molto elementare. Un passo invece sulla tradizione classica in liturgo, ma potremmo passare da Aristotele, Platone, fino ad arrivare al famoso passo degli Officis di Cicerone, eccetera, insomma, cioè c'è una lunga tradizione di testi sul giuramento e poi anche poi testi più tecnici sull'uso del giuramento nel sistema giuridico romano, ma dice Licurgo, il giuramento è ciò che tiene insieme la democrazia, tre infatti sono gli elementi dei quali è composta la vita politica, il sovrano, il giudice e l'uomo comune, ciascuno di questi infatti presta la stessa fede, cioè la vita politica è su questa pistis comune che è il collante su cui si può soltanto impostare la vita politica. Ecco, il terzo passo invece è quello sconvolgente di Matteo 5:33-37, che poi è ripreso da Giacomo nella lettera, non giurate. Lo statuto del giuramento nell'Antico Testamento appunto è può essere sintetizzato da questo passo del Deuteronomio, anche se i testi sono decine, eccetera, eccetera, anche se appunto è del Nuovo Testamento in questa in questo comandamento di non giurare. Anche se poi appunto ci sono tutti i passi su San Paolo, di San Paolo su cui bisognerebbe fermarsi, insomma. Rimane il fatto che la riflessione dei padri della Chiesa pare in ogni caso abbastanza aperta e differenziata tra i padri greci e latini su questo punto. In Oriente si afferma una tradizione che al suo punto più alto è San Giovanni Crisostomo e che continuerà sino a Fozio, tendendo a considerare in ogni caso il giuramento come atto inerente alla vita mondana e quindi da evitarsi, come peccaminoso da parte di tutti coloro che desiderano professare la vita religiosa e casomai da subire forzatamente. Cioè il giuramento è una cosa del mondo, ecco, a cui il cristiano può essere costretto, ma che è sempre una cosa da evitare. Nel mondo latino invece appare radicale il passaggio dalla primitiva visione di Tertulliano, che contrappone il sacramentum fidei al sacramentum militiae romano, fino alla posizione invece di Sant'Ambrogio, che assorbe come cristiano il valore religioso del giuramento, ma lo ritiene pericoloso per la possibilità di spergiuro. Con San Gerolamo e Sant'Agostino si definiscono già le idee fondamentali che reggeranno l'istituto del giuramento nella trattatistica morale sino ai nostri giorni. Il giuramento cristiano deve essere accompagnato dalla veritas iudicium et justitia, i tre comites, insomma, del giuramento, mentre il secondo delinea la norma pratica, Sant'Agostino delinea la norma pratica di comportamento valida per il cristiano di fronte al giuramento. Falsa iuratio exitiosa est, vera iuratio pericolosa est, nulla iuratio sicura est. Questo, quindi, un giuramento è una posizione di cautela. Nella prassi pubblica, i fenomeni che si verificano in questa fase di evoluzione con la formazione del tardo impero romano cristiano sono essenzialmente questi. Gli imperatori adottano il giuramento come istituto fondamentale, non soltanto nelle cause civili ed ecclesiastiche, ma anche come base dell'amministrazione dello Stato. Come per altri istituti analoghi, servizio militare, eccetera, comincia la prassi dell'esenzione dall'obbligo del giuramento per i chierici. La preoccupazione della legislazione canonica nel suo primo sviluppo sembra ancora essere quella di assicurare agli uomini di chiesa il privilegio dell'esenzione del giuramento. Così risulta interessante per il nostro ragionamento la proibizione contenuta nella regola al monaco di giurare. Il giuramento non è compatibile con lo stato di perfezione. Quindi il problema giuramento politica mondo, insomma, e la considerazione dell'esenzione come appunto la perfezione evangelica, del divieto evangelico, che viene limitata in qualche modo a coloro che si incamminano verso queste strade di perfezione. Ecco, e qui arriviamo appunto al primo dei punti che volevo sottolineare, a questa trasformazione appunto del giuramento in sacramento. Le norme negli ordini dei pontificali romani, prima ancora nelle raccolte penitenziali, sono dirette a salvaguardare il valore sacro e liturgico invece del giuramento cristiano. Soprattutto con i concili visigotici di Toledo, nel VII secolo, e credo che sia la svolta fondamentale, il giuramento di fedeltà al re è dichiarato obbligatorio e vincolante e diventa la base della nuova sovranità, che troverà la sua espressione più matura nell'età carolingia. Il re è riconosciuto nei capitolari di Carlo Magno, detentore del monopolio del giuramento, e l'estensione del giuramento stesso a tutti i sudditi diviene lo strumento fondamentale per la costruzione del nuovo corpo politico. Anche nella Chiesa il giuramento diventa il cardine della nuova disciplina ecclesiastica. Lascio perdere i brani che qui riporto di Burcardo di Worms a questo proposito, e mi soffermo invece su il brano che credo centrale per il mio discorso, cioè il brano tratto dall'opera De Corpore Sanguinis Domini di Ratberto Pascasio. Siamo nell'832. Quid sint sacramenta bel cuore di Cantor. C'è la teoria del sacramento, il trattato di Pascasio appunto è sulle scarestie, e dopo avere definito i sacramenti, insomma, ecco, il rapporto tra visibile e invisibile, questo è il tema centrale di Pascasio, in re visibili divinitas intus aliquid ulta secretius efficit per specem corporalem, quindi questa manifestazione della divinità, dice anche che i sacramenti nella Chiesa sono baptismus et chrismas, corpus quoque domini, quindi il battesimo, il crisma e l'eucaristia, qui a subeorum specie visibili quae videntur secretius virtute divina caro consecratur, eccetera. E poi c'è il brano che qui mi interessa, est sacramentum iuris in quo post electionem partium iurat unus quisque pro suo pactu quod suo pacto decreverit, ci manca una E, ci sono alcuni errori di stampa di cui chiedo venia. unde et sacramentum dicitur quod secretius fides invisibilis per consecrazione invocationis Dei, velicuius sacri teneatur exeo quad foris visu velaudito vox iurantis sentitur. Quindi il patto politico, il patto che qui è visto anche nel giudizio, nell'amministrazione della giustizia, è il patto appunto che ha un valore sacramentale, insomma, di resa visibile dell'invisibile, insomma. E dopo Radberto ho trovato passi molto molto interessanti, soprattutto in Incmaro di Reims. Incmaro, ecco, qui ho messo la N al posto dell'H, chiedo, dattilograficamente è stato scritto in pochi giorni, insomma, come sa. Ecco, che mi limito a, che qui a solo riassumere, insomma, ecco, sostanzialmente, insomma, in Incmaro di Reims, insomma, nel IX secolo noi troviamo questa continuità nel popolo cristiano tra la funzione dei vescovi, degli episcopi e di tutti gli uomini, che sostanzialmente, questa è la tesi centrale del passo, nessun uomo è privato, tutti gli uomini sono pastori in qualche modo, nella misura in cui sono corresponsabili, anche se vivono in famiglia con una o due persone intorno. E tutto questo esige appunto il giuramento come snodo fondamentale della vita collettiva. Non esiste il privato perché ogni persona, o meglio ogni fedele, è pubblico, è pastore e quindi uomo politico. Il giuramento sacramento al quale tutti sono soggetti è il vincolo fondamentale che rende tutti reciprocamente interdipendenti in un universo cristiano regolato da una provvidenza divina che rende visibile l'invisibile secondo le funzioni e le vocazioni di ciascuno, dai re ai vescovi fino al più umile uomo, ricompensando in questo e nell'altra vita il bene compiuto e castigando il male. Anche se nei suoi imperscrutabili giudizi Dio permette che il giuramento stesso sia violato con lo spergiuro, perché ci sono queste cose, come nei sacramenti, lui fa il parallelo tra gli altri sacramenti e il giuramento, in modo che quando c'è lo spergiuro, dice Dio permette lo spergiuro, ecco, però come il cattivo battesimo non costituisce una prova di falsità del battesimo, così il cattivo giuramento in qualche modo non incide il giuramento come patto politico in se stesso. Quindi c'è tutto il problema poi dello sviluppo da questo, delle forme di coniuratores, cioè di coloro che garantiscono il giuramento insieme a colui che lo presta, insomma. E c'è tutta un'analisi poi che qui non faccio di sicuro, insomma, ma che sto compiendo, perché dietro questa cosa ovviamente ci stanno ricerche abbastanza complesse e lunghe sulla la nascita da questo poi della giuria in senso moderno e della testimonianza anche processuale in senso moderno, ma di tutto questo appunto è solo un accenno. Il primo punto è questo, cioè di questa sacramentalizzazione, insomma, del patto politico che avviene nell'Alto Medioevo. Il secondo snodo storico, qui sono a pagina già 13 di questo mio del testo che vi ho presentato, avviene con la riforma gregoriana e qui credo che sia un punto molto centrale da sottoporre all'attenzione dei teologi. La novità che si introduce a partire dal secolo XII è questa: la Chiesa romana rivendica la sua competenza esplicita in materia sacramentale e quindi anche nei riguardi del sacramentum per eccellenza, il sacramento del potere, il giuramento. La Chiesa non afferma soltanto la sua potestà di sciogliere i soggetti dal giuramento di obbedienza al sovrano dichiarato indegno, ricordiamo l'episodio di Enrico IV a Canossa, eccetera, eccetera, cose ben note queste, ma soprattutto permette, attraverso il controllo del sacramento, la creazione di nuovi vincoli di obbedienza e di associazione, la nascita di nuove sovranità. Questa è stata definita da uno storico americano del diritto, Berman, la rivoluzione papale, e Berman la vede come il punto di partenza della dinamica costituzionale e politica di tutto l'Occidente. cioè la vera grande rivoluzione è stata la rivoluzione gregoriana, perché ha introdotto questo tipo di dualismo che ha permesso poi all'Occidente questa dinamica enorme che l'ha distinto da tutte le altre forme di civiltà che erano precedentemente apparse sulla faccia della terra. È stato proprio questo il cristianesimo, nell'interpretazione occidentale gregoriana, che introducendo questo dualismo, sottraendo il potere politico al potere politico il controllo sacramentale in qualche modo, ha permesso appunto al sistema costituzionale occidentale lo sviluppo che ha avuto. Senza pretendere di entrare qui nell'immenso problema costituito dalla riforma gregoriana e dalla lotta per le investiture, e senza indulgere a definizioni sulle rivoluzioni ed evoluzioni che hanno caratterizzato il nostro dinamismo costituzionale, rimane la convinzione, io credo sia giusto, che tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo il dualismo, introdotto dal cristianesimo nella storia già al suo apparire e maturato all'interno della cristianità occidentale come società corporata, si coagula per la prima volta in un chiaro dualismo istituzionale con la formazione di due poli, ognuno dei quali appare dotato di strutture di potere di un sistema giuridico infieri. Appunto, la grande nascita del diritto canonico, eccetera, eccetera, tutte queste cose che sappiamo. Proprio perché si era messo in moto un processo di Entzauberung del politico e di politicizzazione della Chiesa come portatrice di un carisma d'ufficio, questo dualismo istituzionale riesce ad attuarsi e a concretarsi storicamente. Non si tratta tanto della formazione di un modello di gestione del potere che dall'ambito ecclesiastico si proietta secolarizzandosi sul politico, quanto della nascita di una tensione concorrenziale tra due poli, ognuno dei quali tende all'egemonia nella gestione di una cristianità che è ancora concepita e sentita comunitaria, della istituzionalizzazione di un dualismo permanente in cui il metapolitico, inteso nel senso temporale e profano, diventa a sua volta politico e si afferma come tale. Il processo divaricante, il contemporaneo intreccio che si va aprendo tra il sacro e la politica con la riforma gregoriana e con la lotta delle investiture appare quanto mai complesso. Non soltanto la Chiesa, costituendosi come ordinamento, ha fornito il modello per lo sviluppo della costituzione politica degli stati secolari, ma con modo inverso ha integrato la politica all'interno della sfera religiosa, fornendo la legittimazione per un suo ampliamento a spessori della vita personale, familiare e sociale sino allora sottratti alla sfera politica. Quindi c'è tutto il problema appunto della sacramentalizzazione non solo della politica ma della vita dal secolo XII e XIII, insomma, è un problema enorme che però rientra ed è strettamente collegato. Pensiamo all'istituto matrimoniale sostanzialmente, insomma, per fare un esempio di questo, ma non posso parlare, evidentemente. Ecco, il problema del disciplinamento, insomma, dell'uomo in qualche modo che nasce in questi secoli. Se alla Chiesa romana non riesce il progetto di trasformare anche il giuramento in un vero e proprio ottavo sacramento, nel sacramento della vita politica, rimane l'impronta di questa tensione dualistica sia nella gestione dei legami tradizionali di obbedienza derivati dal sistema feudale, sia nella creazione delle nuove realtà collettive, dalle paci di Dio ai comuni che si strutturano come sovrani non riconoscenti alcun superiore. Il comune nasce dalla coniuratio, nasce da questo potere, insomma, in qualche modo sacramentale della Chiesa che permette la nascita della nuova sovranità. E questo, riassumendo, è un po' il tema, insomma. E appunto il monopolio precedentemente del giuramento, insomma, ecco, viene in qualche modo rotto da questa rivoluzione o in qualche modo da questo sovvertimento creato dalla riforma gregoriana, insomma. Per commentare questo passo, per commentare questo problema, riportavo un passo che mi sembra fra i più belli di quelli che ho visto, cioè il passo di San Pier Damiani, in cui riferisce la missione da lui svolta a Milano nel 1059, insomma, quando convocato tutto il popolo milanese, ecco, fa prestare giuramento anti Patarini, anti Nicolaide, anti antisimoniaco, insomma, è un patto che diventa religioso e politico perché costituisce proprio il fondamento di una nuova sovranità. Il giuramento infatti acquisterà sua piena, cioè parlo di questo fatto perché è del 1059, poi cioè in qualche modo uno dei primi, delle prime grandi manifestazioni, credo, di questa, questo passaggio che cercavo di illustrare. Poi naturalmente potremmo citare decine e centinaia di episodi che accompagnano la nascita e lo sviluppo delle città italiane, delle città tedesche, eccetera. Appunto dalle paci di Dio del secolo XI sino agli statuti comunali più elaborati. Il giuramento infatti acquisterà sua piena sistemazione giuridica, formale e concettuale nella legislazione canonica classica e nel pensiero scolastico, come sanzione di una trasformazione già avvenuta nella vita della Chiesa e più in generale della cristianità. Trapiantato all'interno delle strutture ecclesiastiche, esso è divenuto il pilastro stesso della gerarchia nella versione del giuramento di obbedienza dei vescovi al Papa, qui c'è il problema soprattutto della consegna del pallio ai metropoliti, eccetera, giuramento già preesistente ma che a partire dalla metà del secolo XI diventa generalizzato e costante, parallelo ma non identificantesi con l'omaggio feudale e permettendo la crescita di un'autonoma sovranità spirituale della Chiesa romana. Nei riguardi del potere politico, il giuramento sacramento permette alla Chiesa riformata un controllo mai conosciuto in precedenza, perché in quanto res sacra per eccellenza, l'ultimo giudizio su di esso non può che spettare all'autorità ecclesiastica, la quale è l'unica che può stabilire quando il patto politico è venuto meno e che può giustificare quindi il passaggio dall'obbedienza passiva al diritto attivo di resistenza e alle limitazioni costituzionali del potere monarchico. Nella vita dell'uomo comune il giuramento diviene, da quello giudiziario a quello sempre più diffuso in connessione con il contratto, il fondamento ultimo della validità degli atti della vita quotidiana nel continuum privato-pubblico caratteristico della vita associata di questi secoli, nello sviluppo delle universitates e del concetto e della prassi della rappresentanza. Quindi diventa la base di meccanismi che nascono appunto in questi secoli del tardo Medioevo. Al vertice del potere le capitolazioni elettorali, i patti giurati con i quali i candidati elettori al papato, all'impero, ad episcopati e principati ecclesiastici si impegnano a determinati comportamenti in caso di elezione, vincolando in antecedenza la propria sovranità. Il problema appunto delle Wahlkapitulationen, insomma, ecco, che è stato studiato in Germania, è strettamente connesso proprio con il giuramento e appunto, la base. Il terzo snodo storico che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è questo, è quello della crisi di questa impostazione nell'età della confessionalizzazione. Un terzo passaggio, dico importante, costituito dal fallimento di questo secolare sforzo di sacralizzare la politica tramite il giuramento in un sistema dualistico in perpetua tensione. Per potere non si arriverà mai, anche nel corso delle definizioni sacramentali del Concilio di Trento, all'ottavo sacramento, già preparato ed adombrato dal diritto canonico e dalla teologia scolastica. Ci si fermerà al numero di 7 sulla soglia con il matrimonio della vita sociale, ma senza andare oltre. E questa è un'espressione un po' provocatoria, ma che dovrebbe potervi far capire il senso della mia ricerca. Insomma, ecco. Io credo che appunto il Concilio di Trento avrebbe ben volentieri, aveva una pressione per arrivare a questo, ma la riforma dei principi invece, decisa al Concilio di Trento, si soffermò molto molto prima di questa soglia, rimanendo soltanto una esortazione ai principi di rispettare la libertà della Chiesa, ma senza riuscire appunto a portare avanti questo principio di sacramentalizzazione del potere. Ecco. Qui in alcune cartelle cerco di dire come in realtà l'evoluzione del giuramento in questi secoli appunto viene condizionata dalla fine del conciliarismo, insomma, ecco, che rappresenta forse il punto più alto di valorizzazione all'interno della Chiesa, del concetto pattizio, insomma, ecco, che aveva la sua base nel giuramento. Ma per rimanere all'interno del tema specifico del giuramento, si può così schematizzare la sua evoluzione in quest'epoca di trapasso. Esso viene attaccato, per così dire, da sinistra, dall'ala radicale dell'umanesimo cristiano e della riforma, e nello stesso tempo da destra, come pericoloso per il nuovo orientamento monarchico che si sta affermando nello Stato e nella Chiesa. La nuova spiritualità della devozione moderna e dell'umanesimo non poteva non mettere in discussione l'istituto del giuramento, sia per il riemergere del richiamo al puro dettato evangelico, sia per l'analisi storica sul ruolo del giuramento stesso come supporto e perno della sacralizzazione di un ordine politico e sociale che si ritiene ormai intimamente degenerato e corrotto. Quindi abbiamo questa serie di attacchi che vanno da alcune rami ereticali come i Valdesi fino a Wycliffe, Hus, e poi però si diffondono in tutto l'umanesimo cristiano sino ad arrivare a Erasmo e soprattutto poi all'ala radicale della riforma, agli anabattisti, insomma. Quindi il rifiuto del giuramento come rifiuto di identificazione del cristiano con un ordine politico stabilito. Questo, diciamo, è l'attacco che io dico, l'attacco da sinistra, insomma. Ecco, ma appunto c'è anche l'attacco al giuramento su altro piano, per semplificare dico da destra, insomma. Su altro piano il giuramento, che nell'età dello scisma e soprattutto del conciliarismo è divenuto nella prassi la base di ogni tentativo di soluzione contrattualistica, rappresentativa e corporata del problema dell'unità della Chiesa, viene visto con il declino del conciliarismo stesso e l'affermazione del principio monarchico del papato come pericoloso per l'autorità e la sovranità del Papa nella Chiesa. Si sviluppano così due opinioni, tra loro contrapposte, all'istituto del giuramento, non soltanto sul piano della spiritualità e della devozione, ma su quello politico-ecclesiastico. Da destra si cerca di minare la validità di tutte le utilizzazioni del giuramento che appaiono essere una minaccia contro la potestà assoluta papale o statale, la messa fuori legge delle capitolazioni elettorali e tante altre cose di questo tipo. Sia nelle nuove teorizzazioni, sia nella legislazione civile canonica, ogni principio pattizio e giurato viene duramente combattuto. Da sinistra si vuole colpire nel giuramento il cuore del potere, nella sua sacralità. Da Wycliffe all'ala radicale della riforma, agli anabattisti, movimenti nei quali motivi religiosi e motivi politici si saldano strettamente, l'invocazione della proibizione evangelica diviene una cosciente ribellione contro l'ordine statale, ribellione che come tale verrà chiaramente percepita e repressa anche dalle chiese nate dalla riforma, perfettamente allineate in questo alla Chiesa romana. Cioè, contro gli anabattisti la posizione dei luterani e dei cattolici è parallela e altrettanto violenta. Gli anabattisti sono i distruttori della politica, i distruttori dell'ordine stabilito, e vengono liquidati sia dai luterani che dai cattolici allo stesso modo. Le chiese si comportano tutte in modo parallelo e omogeneo su questo punto. In realtà tutte queste contestazioni appaiono sconfitte e il giuramento non apparirà mai tanto forte come nell'età confessionale. Ma l'istituto sembra avere subito una metamorfosi alla fine di questo ciclo. Essersi sganciato dal dualismo istituzionale che aveva garantito a partire dalla riforma gregoriana un sistema di tensione di doppia appartenenza, per diventare soltanto uno strumento di trasferimento della sacralità al terreno politico e di trasferimento della politicità al terreno del sacro, all'interno dei nuovi stati e delle chiese territoriali. Su questo piano, appunto, ricordavo prima, è la rinuncia del Concilio di Trento al controllo del giuramento. Ci sono anche passi di dibattiti conciliari in cui qualcuno tenta di avanzare questa proposta di obbligare i sovrani temporali a far giurare i propri sottoposti un giuramento appunto ancorato al controllo della Chiesa, ma questo viene respinto. Ecco, arrivavo proprio a questo punto, quello che chiamavo proprio la prima grande metamorfosi del giuramento. sono appunto anche qui saltando molte cose a pagina 20, spero di stare nel, sono nell'ordine delle, dei tempi, non troppo, ma insomma. Non soltanto esso perde il dualismo che lo aveva caratterizzato come istituzione nei secoli precedenti, ma si carica nell'ambito politico del contenuto dottrinale e ideologico tipico delle professioni di fede, mentre nell'ambito ecclesiastico la professione di fede si colora per la prima volta nella storia della Chiesa delle forme del giuramento. Qui tento di riassumere questo concetto fondamentale, cioè la professione di fede giurata è la, la grande svolta confessionale. Insomma, fino alla cristianità, fino a, a quest'epoca, ha conosciuto soltanto il simbolo e la professione di fede nel mezzo, con la proclamazione del simbolo. Qui invece assistiamo a questo ingresso, credo, della politica appunto nella, nella, nella vita religiosa, con la trasformazione del simbolo in giuramento, quella confessio fide, quella professio fide, e che è nata poi prima che a Trento in ambiente protestante, come sappiamo, e quindi è appunto una cosa anche qui che allinea le chiese. Insomma. E d'altra parte, appunto, noi assistiamo nello stesso tempo a una trasformazione fondamentale in campo politico, perché è il giuramento politico che si carica di valenze religiose che prima erano totalmente esterne al giuramento tradizionale politico, che riguardava sempre e soltanto dei comportamenti di tipo esterno e che invece viene a caricarsi proprio in questo periodo di valenze di tipo ideologico, di valenze di tipo di contenuti di opinioni, di contenuti appunto di concezioni mentali, di atteggiamenti interiori, di dottrina. E questa è la grande metamorfosi che credo si attua in questo periodo. Faccio poi una disquisizione per dire come questa trasformazione, insomma, questa metamorfosi del giuramento ha i propri prodromi, le proprie radici nell'ambiente universitario, perché è proprio nell'ambiente universitario che nei secoli XIV-XV il giuramento per la prima volta si carica di questa valenza dottrinaria, cioè si giura di seguire una determinata scuola, si giura di non solo di comportarsi, di osservare gli statuti, di non fare certe cose, ma di aderire appunto a una determinata dottrina, a una determinata obbedienza papale anche, eccetera. E quindi in qualche modo quello che sarà poi il giuramento contenuto nelle professioni sfide dell'età della riforma e della controriforma è in qualche modo implicito in questa, in questo sviluppo che nasce all'interno delle università. Rimane il fatto appunto che centrale per tutto questo discorso è la professio fide tridentina, e prima da allora appunto il decreto della 25ª sessione del Concilio di Trento, che impone appunto a tutti i professori di università a tutti, il giuramento, insomma, di adesione alla fede cattolica e di accettazione del Concilio di Trento. Nella bolla di Pio IV del 13 novembre 1564, che rende esecutivo questo decreto con la definizione della professio fidei, la tradizionale elencazione delle verità che si abbracciano e delle eresie che si ripudiano, estesa sino a comprendere naturalmente il tridentino, si conclude con l'impegno giurato a rispettare e far rispettare, insegnare e predicare quanto professato sino alla fine della vita. Quella formula tradizionale del giuramento promissorio, ego, idem, eccetera, sponde, o vove, o acchiuro, sic deus me adiuvet et ex santa dei evangelia. E questa è l'innovazione che si attua appunto al termine di questa metamorfosi. Un successivo punto di questa relazione riguarda il la disputa che si ha appunto dopo questa biforcazione di cui ho parlato adesso, insomma, ecco. E la disputa si apre soprattutto a proposito del giuramento di obbedienza in Inghilterra ai primi del 600, quando il re chiede giuramento, Giacomo I, a se stesso come capo della Chiesa e capo dello Stato inglese. Insomma, questo rappresenta appunto questo tipo di unificazione, insomma, in qualche modo, del giuramento all'interno della politica. Ecco. E qui riprendo il brano iniziale dell'opera di Suarez, in polemica appunto con Giacomo I, il De Juramento Fidelitatis di Francisco Suarez, in cui appunto lui traccia proprio, lui dice quattro tipi di giuramento, ma sostanzialmente due: uno dici potest civile juramentum, qui est solius obedientia civilis in rebus mere temporalibus, cioè un giuramento civile, aliudet juramentum sacrum, quindi per la prima volta si distingue un giuramento civile da un giuramento sacro. Aliudet juramentum sacrum seu ecclesiasticum silicet solius obedience ecclesiastice seu spirituali regi temporali adibendi. Quindi da questa distinzione poi lui parte appunto per tutta quella teoria che poi è connessa col problema dell'affermazione del potere indiretto, eccetera, che qui lasciamo ovviamente ai margini. Quello che ci interessa è l'emergere di una distinzione sostanziale tra un giuramento civile diretto a regolare le materie puramente temporali e un giuramento sacro riguardante le materie ecclesiastiche e spirituali. La tensione verso il dualismo nell'ambito della nuova ecclesiologia del potere indiretto sembra trasformarsi in un sistema parallelo di due obbedienze, rifiutato dai nuovi sostenitori del potere monarchico e sostenuto invece dai teorici della seconda scolastica. Questo è sostanzialmente la novità, ecco, che io credo emerga in questa polemica. Mentre il contrattualismo poi, nei decenni successivi, tende ad emanciparsi dalla radice del giuramento per affondare le proprie nuove radici del diritto naturale nel contratto, il nuovo giuramento a sua volta tende a perdere la sua qualifica fondamentale di patto tra persone, con la garanzia di una presenza anche istituzionalmente esterna o metapolitica del sacro, con la presenza anche istituzionale esterna o metapolitica del sacro. Il sacro si identifica direttamente con il politico. E questo è, credo, un problema centrale, insomma, in questo passaggio, che bisognerebbe seguire poi appunto in tutti gli autori e soprattutto nelle piccole discussioni, nelle tesi di laurea delle università tedesche, che sono a decine sul problema del giuramento appunto tra la metà del 600 e i primi decenni del 700. La conclusione mi sembra questa: il giuramento perde continuamente peso nella vita sociale quotidiana con la riduzione progressiva della sua rilevanza giuridica, mentre aumenta la sua importanza come base dell'obbligazione politica, come atto di identificazione collettiva di tipo nuovo, nel quale la volontà generale, in quanto appunto persona collettiva, rappresenta il superamento della nozione tradizionale di patto sociale. E che qui riportavo, come pure esemplificazione per farmi capire, la formula del giuramento che Jean-Jacques Rousseau propone per la Costituzione della Corsica. Io a nome di Dio onnipotente, sui santi evangeli, con giuramento sacro e irrevocabile, io mi unisco col corpo, coi beni, con la volontà e con tutto il mio potere alla nazione corsa per appartenere in tutta proprietà me e tutto ciò che dipende da me. C'è questa identificazione, non c'è più appunto il problema del patto e del giuramento come garanzia pattizia, ma c'è il giuramento di identificazione con la patria. E saltando molti passaggi, appunto, qui a pagina 26 proponevo questo brano del sillabo in cui sostanzialmente si contrappongono sostanzialmente i due giuramenti, le due religioni, insomma, ecco, la religione della patria e la Chiesa. Nei compromessi della politica concordataria, a mio avviso, nell'inserzione del laicato cattolico nello Stato liberale democratico, hanno superato questa antinomia. Questa è una frase un po' coincisa per dire che, insomma, in realtà mi sembra che occorre appunto andare all'indietro per trovare le radici di questa biforcazione. Arrivato a questo punto mi sembra importante ragionare su quel che è stato del giuramento all'interno della Chiesa e non solo nell'ambito politico. E qui credo che ci riconduciamo proprio ai nostri giorni e alla cronaca dei giorni passati. Rimane da scavare in senso inverso, dico, cioè sull'influsso che ha avuto nella vita della Chiesa l'ingresso attraverso gli impegni giurati di un modello di obbligazione dei comportamenti e delle opinioni future derivato dalla sfera politica con il processo di confessionalizzazione. Si tratta di fare la storia del nuovo giuramento promissorio nell'applicazione della professio fidei trientini, ma non soltanto, sino al codice di diritto canonico del 1917 a quello attualmente in vigore. Vorrei sottolineare ancora il mutamento radicale che questa recita del simbolo comunica professione di fede esigita dal cristiano e l'assimilazione di questo allo statuto del sospetto di eresia nel Medioevo o del suddito minorenne. Cioè, secondo me c'è stata una trasformazione molto, molto importante con questo passaggio di cui ho già parlato. Questo problema non riguarda direttamente il tema della teologia politica, ma credo che una riflessione su di esso sia importante, perché in seguito a questo si è impostato all'interno della Chiesa un meccanismo analogo e parallelo a quello che ha caratterizzato la gestione del potere nello Stato moderno. In tutti questi secoli, perso il controllo sacramentale sul giuramento civile, la Chiesa propone un modello concorrenziale nel quale vengono aboliti tutti i giuramenti di garanzia pattizia, come quelli relativi alle capitolazioni elettorali papali ed episcopali, mentre rimane soltanto, accanto al giuramento giudiziario, il giuramento di obbedienza alla gerarchia, esteso dall'Episcopato a categorie sempre più ampie e ingobante man mano le definizioni elaborate dal Magistero. Si costruisce attraverso il giuramento un sistema gerarchico di controllo nel quale l'esercizio del potere all'interno della Chiesa, con un sostanziale superamento della tradizionale distinzione tra voto e giuramento, si trasforma in un rapporto analogo a quello sovrano-suddito. Questo processo sembra toccare la sua maturazione definitiva con il giuramento antimodernista imposto da Pio X e le norme generali del giuramento nel codice del XVII sono distinte dalle norme che stabiliscono la professione di fede e le categorie obbligate ad emetterle e tali norme appaiono sostanzialmente recepite nel nuovo codice del 1983. Ma è interessante osservare che soltanto per i promossi all'episcopato è richiesto esplicitamente nei due codici, anche in quello dell'83, sia la professione di fede che lo jus jurandum fidelitatis alla Santa Sede, secondo formula approvata dalla stessa sede apostolica e tradizionale, come abbiamo visto, dal Medioevo. Norma contenuta nei canoni 332 del 17, ripresi in termini identici nel 380 attuale. Ma quello che volevo sottolineare era questo. Il punto interessante è che proprio nei mesi scorsi un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede, entrato in vigore il 1 marzo 1989, ha esteso a tutte le categorie obbligate alla professione di fede, dai presidenti e partecipanti ai concili assinodi sino ai docenti di discipline riguardanti la fede, i costumi e ai superiori degli istituti religiosi, l'obbligo dello jus jurandum fidelitatis in suscipiendo ufficio nomine ecclesia exercendo, inteso come complementare alla professio fide. Cioè è un movimento di questi giorni che i professori di teologia di seminario, tanto per essere chiari, siano sottoposti non soltanto alla professio fide ma anche al jus jurandum fidelitatis. È una cosa che è entrata in vigore il 1 marzo e su cui mi pare che non si sia molto riflettuto sulla novità, che è una novità anche rispetto al codice, ripeto, di diritto canonico del 1983. Questa norma infatti mi sembra che Con questa norma, infatti, mi sembra che la Chiesa romana si sia completamente adeguata al giuramento d'ufficio sviluppato dallo Stato moderno, proprio mentre questo sembra essere entrato in crisi nello Stato moderno, con conseguenze non secondarie sul piano dello statuto del cristiano, nella distinzione tra coloro che sono legati al giuramento di fedeltà, quindi non più soltanto i vescovi ma varie categorie di fedeli, e coloro che non lo sono. Soprattutto sul piano dello statuto del teologo, del quale si discute tanto in questi giorni, sembra che questa aggiunta del giuramento di fedeltà tenda a sovvertire la tradizione millenaria della Chiesa, trasformandolo in una specie di funzionario divulgatore. Questo io credo che insomma, sia almeno una cosa provocatoria, ma io penso che queste trasformazioni non debbano... Io qui sono tradizionalista, insomma, cioè, ma sono tradizionalista in modo molto forte. Prima di modificare certe cose, insomma, non sono cose secondarie, ecco, da passare sotto silenzio. Insomma. Bene, ma su questo appunto ci sarebbe ancora... invece 5 minuti ancora per le riflessioni conclusive, che invece dovrebbero riguardare un po' tutto il problema, insomma. E per farmi capire citavo due passi sostanzialmente, uno di Antonio Rosmini nelle Cinque Piaghe della Chiesa, quando scriveva, esaminando proprio il ruolo del giuramento nella storia della civiltà occidentale, Rosmini scriveva: insomma, la monarchia pagana, o se si vuole dirò anzi la monarchia naturale, era assoluta ed il cristianesimo la rese costituzionale. Questo è il ragionamento che Rosmini fa dopo pagine in cui esamina l'istituto del giuramento. Quindi mi limito così proprio a dare il contenuto finale. Questa affermazione presa così può sembrare semplicistica, ma può e deve essere oggetto di riflessione alla luce della problematica di oggi. Può esistere senza giuramento un'identità politica che non sia riconducibile al terrore immanente di cui parla Sartre, lo vedremo, o al nemico di cui parla Carl Schmitt? È possibile la sopravvivenza della libertà, come è stata elaborata in Occidente, senza una riproposizione forte del dualismo cristiano in un nuovo rapporto tra la Chiesa e il potere? Quali conseguenze questo nuovo rapporto implica all'interno stesso della Chiesa nella teologia politica? Cosa significano in questa situazione storica la rinascita di fondamentalismi che ci ripropongono un cortocircuito tra il sacro e il potere, cortocircuito che sembra rinnegare il mistero del nesso sacramentale visibile e invisibile? Dopo l'esperienza tremenda delle grandi deviazioni dei moderni apparati di potere, Romano Guardini, nell'immediato dopoguerra, scriveva: lo Stato, ad esempio, ha bisogno del giuramento. È la forma che lega di più l'uomo quando egli fa una dichiarazione o si impegna ad un'azione. E ciò avviene in quanto chi presta giuramento riferisce espressamente e solennemente la sua dichiarazione a Dio. Che cosa avviene quando, e tale l'attuale tendenza, il giuramento non include più questo rapporto con Dio? In tale caso esso significa semplicemente che chi presta il giuramento sa chiaramente che sarà punito con la galera se non dice la verità. Una formula che ha ormai ben poco senso e certo non ha efficacia. Ogni essere è più che se stesso, ogni avvenimento significa più che il suo stretto compiersi. Tutto si riferisce a qualcosa che sta al di sopra, al di là, eccetera, eccetera. Su questo problema della metapolitica, insomma, come base appunto della politica. Negli stessi anni, sul fronte opposto, Sartre terrorizzava il terrore incorporato nel giuramento, necessario ma senza alcun bisogno dell'apporto di una divinità esterna e trascendente come forza stabilizzatrice del gruppo sociale. Poco importa, scrive Sartre, da questo punto di vista, che il giuramento come operazione materiale faccia entrare in gioco un essere trascendente, la croce, la Bibbia, Dio stesso, o che rimanga nell'immanenza comune. In ogni modo, infatti, la trascendenza è presente nel gruppo che ha prestato giuramento come diritto assoluto di tutti su ciascuno. Così Dio o la croce non aggiungono nulla a questo carattere che, se si vuole, è per la prima volta posizione dell'uomo come potere assoluto dell'uomo sull'uomo, nella reciprocità. Ma inversamente, quando il giuramento in una società profondamente religiosa si compie sotto l'occhio di Dio e invoca castighi divini per chi lo violerà, dannazione, eccetera, questo impegno verso Dio è solo un sostituto dell'integrazione immanente. Dio si rende esecutore delle alte opere del gruppo ed è, se si vuole, il sostituto del boia. E continua appunto, credo sia abbastanza efficace questa espressione di Sartre, di Dio come sostituto del boia per il collante del gruppo politico. Insomma, poi, naturalmente sono decine di pagine che bisognerebbe poi commentare, insomma, su questo piano. Io penso che nella riflessione sul nostro futuro la considerazione della teologia politica non può essere limitata al piano dell'analogia. Non si può prescindere dalla coscienza storica di questo difficile rapporto tra il visibile e l'invisibile incarnato nella Chiesa come istituzione. Se questo ha attraversato, come abbiamo cercato di accennare, varie fasi, occorre forse cercare di capire le nuove forme storiche in cui il dualismo di fondo, introdotto dal cristianesimo, insopprimibile, potrà manifestarsi in modo fertile nel futuro. Non nella nostalgia di un passato del resto mai esistito di cristianità, né nell'integrazione immanente che rappresenta l'incubo del nostro presente. Un grazie sincerissimo al professor Prodi, perché da una parte lui ci ha documentato una pista che dovrebbe essere percorsa più frequentemente, cioè la pista delle analisi sul micro, invece di fare soltanto discorsi grandiosi di sintesi, che piacciono molto di più dal punto di vista così dei teologi, soprattutto sistematici, occorrerebbe moltiplicare, secondo me, queste letture analitiche, queste verifiche, questa serie di verifiche su aspetti concreti del trapasso da un campo all'altro. Qualche cosa si fa per ricordare soltanto alcune tematiche all'Istituto di Santa Giustina in Padova. Abbiamo tentato già per alcuni anni di verificare questo passaggio dal sacro al profano, i pellegrinaggi, la ritualità delle processioni, eccetera, come molte cose appunto sono fuoriuscite, poi rientrano per un altro verso, magari caricati di sensi folcloristici distinti dalla vera fecondità religiosa e della fede. Io penso che forse ce ne sono, come lui ha accennato, parecchie tesi di laurea. Con questa relazione noi abbiamo ascoltato la voce di uno studioso il quale ha guidato senz'altro parecchie ricerche, e forse anche noi dovremmo essere impegnati là dove possiamo. Chiunque di voi è in qualche settore di ricerca teologica dovrebbe farlo, far fare queste serie di analisi, minute storiche, in modo da, direi, mandare avanti una documentazione anche piuttosto analitica, perché di fronte ai fatti narrati, di fronte a questi rosari di elementi raccolti dalla storia, forse si diventa più politici anche come teologi, cioè più capaci di avere forza di riforma, supponiamo, della Chiesa. Dunque un grazie sentito, perché questo suo discorso ha indicato anche una pista. Importanti anche i discorsi che noi amiamo di più, grandi, che ci collegano le grandi situazioni, la storia, ci fanno vivere, diremmo, un po' più speditamente, sono come le grandi autostrade per una viabilità molto veloce. Ma grazie a questa pista, a questa fatica del professore, che anche mostra come le autostrade sono uno sbocco di strade che devono essere moltiplicate su sentieri, in ricerca per superare gobbe, eccetera, di montagne e colmare anche valli ed altre cose. E quindi rendo il testo, insomma, per sì, me... dal tono della voce, però io guardavo anche il tono della voce dimesso, sembrava quasi che dicesse qui cosa volete, c'è poco, c'è niente, e invece io ho intuito una ricchezza. Pensate che quante note sono, saranno una trentina di note, 35 note, quando avremo il testo avremo anche una documentazione che diventerà molto ricca e positiva anche per queste ricerche. Poi io direi anche un altro grazie, in particolare perché questo tipo di discorso fatto da lui rende molto concreto anche il problema che in questi giorni abbiamo noi affrontato, anche per avere motivi storici e non soltanto teologici di fare un discorso su una Chiesa che deve diventare capace di ascoltare, e di lasciarsi anche correggere, spingere in avanti dal mondo, della cultura, eccetera. Pensate alla grande tesi che potrebbe essere la tesi riepilogativa di quanto dicevamo stamattina, ieri sera, il Concilio Vaticano II, forse uno dei testi per il nostro problema più decisivi, è quello del numero 5 della Lumen Gentium, dove si dice la Chiesa non è il Regno. La Chiesa non si identifica con il Regno, ma del Regno è annunciatrice, poi dice germe, inizio, eccetera, e promessa. Dunque questa tesi non rende la Chiesa lontana dal Regno, ecco l'escatologia anche nel già realizzato, però sempre attraverso questa insistenza sul provvisorio, sul parziale, per cui la Chiesa, il cristianesimo, dovrebbe essere, direi, all'avanguardia di chi cerca, all'avanguardia di chi, riconoscendo di essere imperfetto, percorre, come si diceva stamattina, la velocità, direi, di vie che cercano il trascendimento continuo. Non si pianta nella storia come colei che ha già realizzato tutto ciò che gli altri cercano, come se nella storia rappresentasse la fine del mare, la sponda già raggiunta. Tutti gli altri, adesso vi faccio ridere che sennò vedo che dormite, un mio professore di filosofia scherzava sempre e diceva: sapete perché Noè si chiama Noè in dialetto veneto? Perché lui era nell'arca già bello e salvo e vedeva che gli altri naufragavano e lui diceva: aiutaci, aiutaci, aiutaci, diceva, prima siete stati cattivi, adesso Noè, Noè, cioè nuotate, nuotate. Per dire, io ci penso sempre a questo barzelletto del mio professore quando penso alla Chiesa che si ritiene già arrivata al Regno. Questa è la indicazione che io trovo importante, che potrebbe anche quasi riassumere un po' il nostro discorso. È chiaro che la Chiesa è l'inizio, il germe del Regno. Qualsiasi realtà che è nella storia è inizio e germe. La nuova creazione non sarà una distruzione della vecchia creazione. Noi saremo portati a compimento, teleiosis, non annullamento, annichilatio, perfezionamento. Io non sono venuto per distruggere, ma per portare a compimento. E quindi è senz'altro l'inizio del Regno, ma deve proprio questo inizio viverlo come maggiore attesa, maggiore preparazione. Dunque, questi sono i motivi nei quali, dico, questo discorso che faceva Prodi è un discorso di teologia forse più di quanto ne facciamo noi. Anche quella in cenno, visto che molti sorridevano, l'ottavo sacramento, e di solito noi dicevamo è l'ignoranza, no? L'ottavo sacramento è l'ignoranza, la buona fede, la gente si salva attraverso l'ottavo sacramento, mentre qui è questo discorso di un sacramento per la sacramentalità anche della vita politica, della vita, non del potere. Beh, insomma, ecco, adesso allora abbiamo, io ho già tentato di dare qualche pista riassuntiva, abbiamo quasi un'oretta, ecco, per poter ripensare l'itinerario iniziato ieri sera e per poter aiutare un po' tutti, ciascuno si senta servo degli altri, secondo la meditazione di stamattina di Rizzi, nel restituire il dono che ha ricevuto in questi giorni e perché portiamo a casa il materiale per riflettere, per lavorare, ma anche per un po' di ripensare. Però mi pareva stamattina che era stato chiamato in causa anche Totaro per rispondere a una domanda, o Acerbi. Acerbi forse dovevi rispondere, è andato via? Sì. Mi pare che era stata posta una domanda anche a lui. Adesso allora noi potremmo intervenire chiedendo qualche cosa dal professor Prodi di narrazione, anche di esplicitazione di qualche curiosità storica, io penso che sia importante. Eh sì, perché ha fatto uno studio, approfittiamolo, approfittiamone su questo tema del giuramento. Chi è? Tu? Un altro problema? Sì. Comunque, a proposito di Noè, nell'uso medievale cinese chi salvava uno che affogava lo doveva campare tutta la vita. sicché probabilmente c'è anche questo fatto qui da campare tutti quelli che sono cascati nell'acqua o comunque stanno nuotando. Un problema più di generale, non era questo, è un problema di linguaggio. In questi giorni, anche stasera, è venuto sempre fuori la parola sacro, ed è significativo ed è inevitabile. Ora però il problema è che c'è un elemento diverso che noi dobbiamo tener di conto, ed è l'elemento della santità. Perché è significativo che nella Bibbia, per motivi anche storici, ovviamente inerenti al linguaggio religioso del tempo, Ieros si è adoperato quasi esclusivamente al neutro per indicare il Tempio. Invece c'è, soltanto il Nuovo Testamento, oltre 200 volte Agios. Per cui io non conosco il testo tedesco, mi piacerebbe un po' consultarlo. La Jakobuk ha tradotto il libro del Ries sul sacro, così con una situazione, lo ripeto, non conosco il testo tedesco, ma traducono così semplicemente Agios con sacro, il che filologicamente e teologicamente non è esatto. Ora, il criterio della parola santo non è secondario perché comporta un parametro alla divinità, e questo lo riprendo un po' sul tema di cui parlavo stamattina, riprendo il problema della persona partendo dalla Trinità e non l'attribuzione della persona, qui un po' con Acerbi, non era il problema che lui diceva riguardo all'utilizzo del termine persona, ma al ricaricamento semantico della parola, del termine persona partendo dalla situazione trinitaria. Ora qui c'è realmente il problema del termine, e lo ripeto, l'uso del termine sacro corrisponde a un utilizzo del fatto religioso in campo politico. Il riferimento alla parola santo comporta riferimento al tutt'altro, al Ganzandere di Dio, che ovviamente è una critica in partenza a tutto ciò che può essere annessione di caratteri divini, religiosi a termini politici, e anche ci riporta di nuovo un po' su questo punto, qui Acerbi avrebbe più di una ragione, a questa fatica, a questa difficoltà che abbiamo in campo teologico quando cerchiamo di fare questo lavoro di raccordo e di ermeneutica fra politica e teologia, perché realmente siamo radicalmente messi sotto una posizione di alterità, sotto una riserva, lo stesso discorso teologico, proprio per l'uso della parola santo, cosa che invece diventa molto equivoca con riferimento alla parola sacro, che continuamente in questi due giorni è venuto fuori, mentre mai è venuto fuori la parola santo, mentre qui c'è un problema grosso che ci riguarda. Grazie. Terrin? Sì, sì. Me. Chi? Non importa, tu fai una tua proposizione, non una critica. Lì. No, volevo soltanto fare alcuni... Sì. Dunque, io naturalmente sono stato molto contento di questa relazione ultima che ho seguito, però volevo chiedere una cosa, soltanto una spiegazione. Si è richiamato a Pascasio Radberto per parlare della sacramentalizzazione del potere, sacramento che come segno visibile diventa il segno anche immediato, la cosa, la res immediata. E poi invece dice che nella fase subito successiva con la riforma gregoriana eccetera si è evoluta in altro modo. Ora io mi chiedo se, naturalmente io non conosco bene la storia, però so che accanto a Pascasio Radberto c'era anche una visione molto simbolica, ed è quella di Raframno, che era pure uno studioso dell'Eucaristia, dei sacramenti. La posizione di Raframno era del tutto opposta a quella di Pascasio Radberto e puntava tutto sulla simbolicità del potere e del sacramento, e dunque una visione direi già aperta, già a quel livello. Cioè vorrei eventualmente una spiegazione di questo, se già coesistevano le due, se probabilmente quella di Pascasio Radberto era dominante, o se invece soltanto una pista che il professore ha seguito. Ecco questo. Per quanto riguardava la relazione di questa mattina di Rizzi, io ho notato che mi sono trovato un po' a disagio nella prima nel primo punto, nell'uscita dall'Egitto, soprattutto quando, parlando del popolo di Israele, Rizzi ha detto che si tratta di una deidentificazione del divino, dove a un certo momento non si parla più né di potere, né natura, né contura. Cioè, mi pare che a quel punto si sia quasi, cioè Rizzi veda una specie di fatto disincarnato proprio, il popolo di Israele quasi disincarnato, non ha più né cultura né natura, vive soltanto della parola di Dio, quasi non ci fosse più invece anche una storia concreta e una storia che è sempre legata anche a un potere, come direi in tutto il mondo delle altre religioni. Ora direi che questo è forse un tipo di esaltazione, direi quasi indebita, di un contenuto biblico che, messo a confronto con le altre culture e con le altre storie religiose, è forse non accettabile pienamente. Qualche voce nuova? Qualche... troppo pesante. No, no, è il momento della digestione, capisce? È il momento. Se potesse così spiegare a me questo fatto, dove sta la vera novità del giuramento rispetto al voto, siccome l'ha accennato, il votum, quindi io non ricordo bene, ecco, la distinzione tra votum e sacramentum, ma soprattutto perché ho in mente un passo di Sant'Agostino, poi ripreso anche da San Tommaso, dove si giustifica anche l'impiego della forza, l'impiego da parte della Chiesa di metodi violenti. Adesso, se ricordo, il passo è questo: vovere libertatis est, tenere quod promissum est, non so, necessitatis. Cioè, già direi il battesimo, già l'entrare nella Chiesa attraverso questo rito. Credi in Dio Padre Onnipotente, è il primo bagno, credi in Gesù Cristo, cioè già tutta questa realtà sacramentale veniva interpretata come una consacrazione, ecco, quindi votum sì, ma un votum di consacrazione a Dio, Cristo, ma sempre davanti a un gruppo, a una chiesa che tutela poi questo voto fatto, questa consacrazione fatta, cioè non è fatta a un Dio disincarnato. E questa consacrazione è fatta coram ecclesiae, in maniera così ufficiale che poi tu sei tenuto. Allora ecco la istanza di Agostino, e certo che lui ha cambiato opinione dopo un'esperienza eccetera con i donatisti eccetera. Lui ha visto che anche i metodi forti arrivano a ottenere degli effetti buoni, quindi è una prima già teorizzazione della violenza, della forza come strumento anche provvidenziale. Ma dopo, a un certo punto, dice, ma se una chiesa, una comunità ha accolto, è stata testimone e ha accolto anche, diremmo, come mediatrice un atto di consacrazione alla Trinità, ecco, necessitatis est, lì bisogna far valere questo votum come un impegno che prende la persona per tutta la vita. Questo discorso radicato nel sacramento, nella consacrazione, ecco, e che poi diventa sacramento, questo discorso che passa dal voto sacramento, in che senso ha avuto delle modificazioni? Ecco la mia domanda. Scusami, perché bisogna censurare il nome Boff ormai. Dopo la teologia della liberazione. Se dici Jos, la cosa non migliora mica molto. ma non tutti sanno perché. Già, appunto, non lo conosco. Una domanda che già ieri stavo coltivando, questa mattina è stata sollecitata un po' quando si è parlato si è fatto un accenno a Lutero, che oggi è stato ripreso, e ora tu l'hai richiamato dicendo dell'impiego della violenza. I discorsi che abbiamo fatto si potrebbero chiarire un pochino anche nel rapporto con la dottrina luterana dei due regni. Soprattutto direi questo del discorso del pomeriggio, potrebbe essere, mi pare, abbastanza facilmente collegato, il confronto potrebbe chiarire, proprio anche per chiarire la distinzione, nonostante dimensioni ovviamente coincidenti, del rifiuto della sinistra, insomma, dei münzeriani, eccetera, eccetera, da parte di Lutero e da parte dei cattolici. In Lutero in particolare è interessante il rifiuto costante che gli ha opposto all'uso della violenza per la fede, no? Ecco, sarebbe forse un tema sul quale si potrebbe spendere qualche parola. Grazie. Sì. Bravo, sì, Cappelli. Per turbare il sonno, è un pochino nota fuori tono, pensiamo al rituale del condannato a morte, alla famosa rituale del condannato, e la quaresima del condannato a morte, che per 40 giorni il corpo strumento del peccato veniva demolito attraverso successive mutilazioni. Questo per svegliare un po' dal sonno. Da dove cominciavano le mutilazioni? Questo, per svegliare il sonno bisognerebbe essere concreti. Allora, dopo questo primo round di 4-5 domande, se vuole così rispondere un po'. In realtà è abbastanza difficile, a certe cose probabilmente non è che io riesca a rispondere, ecco. Sì. Io penso che appunto io posso aver detto qualche volta la parola sacro, ecco, ma il problema centrale mio era proprio il sacramento, insomma, sì, sacramento. Come tematica, ecco. E quindi questa... Lui l'ha rivolta però a tutto il convegno, non a lei. No, appunto, ma appunto, cioè lui diceva esattamente, appunto, parliamo di sacro perché c'è utilizzazione in campo politico, ecco, questa è stata più o meno la frase che ha detto, è per questo che parliamo di sacro, cioè nella misura in cui a noi interessa questo tipo di intersezione in qualche modo. Ecco. Il professor Terini su Pascasio, ecco, io ho trovato... solo in Pascasio, però può darsi che sia un'ignoranza, ecco, ma non ho trovato in testi coevi questo tipo di teorizzazione del sacramentum iuris in questo modo così esplicito, giuramento. Come sacramentum iuris, ecco, che in altri testi non ho trovato, in discorsi sui sacramenti così di tipo più generale. Mi aveva colpito per Pascasio questa sua diciamo coincidenza con tutta la impostazione che troviamo invece nella raccolta dei penitenziali, anche in Burcardo di Worms, insomma, come che ho saltato poi nella lettura, ma che insomma ecco. Più simbolica, più sì, ecco, ma proprio per quello che sono me, ecco, proprio per quello io pensavo che Pascasio è stato più sensibile a queste cose, insomma, sicuramente, ecco. Cioè il problema. Io penso di sì, io direi di sì, lo dico con molta cautela, nel senso che appunto, poi si dà il caso che io tra l'altro sia uno storico dell'età moderna e della riforma e della controriforma, insomma, quindi con questa ricerca, e sono 4 anni, insomma, appunto, parlavi di 24 note, ma insomma sotto ci stanno circa 1500 rinvii bibliografici, quindi dovrei andare molto cauto ecco, quindi... Voglio dire che, a parte gli scherzi, insomma, ecco, non sono un patrologo come mestiere, quindi tra l'altro ho accettato anche questa occasione proprio per in qualche modo sottopormi e avere sollecitazioni che saranno ben gradite anche nel futuro. Ecco, io credo che Pascasio e poi dopo Intmaro di Reims, ecco, rappresentino... per la loro epoca, così, la corrente forte, la corrente vincente, la corrente dei carolingi, la corrente che sostiene politicamente, insomma, ecco, la teologia dell'impero carolingio, insomma, ecco, se dovessi, ecco, per questo mi interessava, insomma, ecco. Credo appunto, se sono riuscito a farmi capire, che non è che poi la riforma gregoriana rinneghi questo, ecco, però appunto cosa succede? Che con il dualismo di tipo istituzionale, come ho detto, il controllo sacramentale viene a essere in qualche modo istituzionalizzato e quindi a trovare una sua collocazione anche nell'ambito giuridico, appunto, soprattutto. Quindi si passa, diciamo così, dalla fase dei penitenziali dell'alto medioevo al diritto canonico classico, ma anche qui sono argomenti, ognuno dei quali probabilmente meriterebbe non una relazione ma decine di relazioni. Sul problema voto giuramento, anche questo è un tema immenso, grosso modo io mi terrei a questa distinzione fondamentale, insomma il giuramento, il voto è un impegno del soggetto con Dio, sia pure al cospetto ecclesia, insomma, ecco, ma in qualche modo non, il voto non implica mai dei diritti altrui, questa è la differenza. Io citavo il testo in cui Agostino tirava la conseguenza, dunque la Chiesa può intervenire per obbligarti a mantenere quello che hai promesso, quello citava. Vovere libertatis est, tenere quod tu hai promesso, hai votato, è necessitatis, quindi la Chiesa può dopo usare i mezzi forti, in quel senso mi sembrava che si avvicinasse duramente. Penso sì, credo che bisogna approfondire, ecco. Ma quello che importa dal nostro punto di vista, dal punto di vista della teologia politica, insomma, è la distinzione in cui nel giuramento sono implicati i diritti di altri. Cioè, mentre per esempio in tutta la trattatistica poi del diritto canonico post-classico, insomma, ecco, l'autorità ecclesiastica può dispensare dal voto, ecco. Esiste anche la possibilità di dispensa del giuramento, ma con la condizione dei diritti altrui, insomma. La differenza fondamentale qui si vede a proposito della dispensa, insomma. Sì. Cioè anche il potere ecclesiastico non può dispensare dal giuramento se il giuramento implica diritti altrui, mentre il voto invece è sempre possibile, una soluzione per il voto all'interno della... Si potrebbe spiegare, adesso mi viene in mente per allargare, che la Chiesa dispensa più facilmente, supponiamo, un prete che ha, o un religioso che ha fatto voto o promessa di celibato, mentre la soluzione del matrimonio, anche in questi giorni è venuto fuori questa discussione, no? Come mai il prete lo libera eventualmente, lo religioso, dei suoi voti, mentre perché nel sacramento del matrimonio ci sarebbe... Penso io come cioè una specie di sacramento, nel senso che implica i diritti dell'altro o di altro, la prole, altre cose. Non c'è dubbio. Ecco, sulla dottrina luterana dei due regni, certo che appunto si entra in tutta una problematica molto importante, ecco, a proposito di questo. Sostanzialmente, insomma, Lutero, almeno Lutero dopo il 1525, si trova di fronte a questa situazione della maturazione appunto di questa radicale, insomma, in cui gli anabattisti sono i protagonisti principali, che appunto nega sostanzialmente anche la possibilità di una disciplina ecclesiastica, sostanzialmente, insomma. E quindi noi abbiamo questa fortissima polemica che si sviluppa poi specialmente all'inizio degli anni 30, insomma, ecco, tra i luterani e gli anabattisti, insomma, in cui il giuramento diventa proprio il perno della divisione, insomma, ecco, cioè per Lutero la politica ha bisogno del giuramento, io purtroppo non ho portato appunto qui giù i testi che si potrebbero leggere, la politica ha bisogno del giuramento perché senza il giuramento appunto non c'è nessuna possibilità di disciplina e di ordinamento civile, insomma. E quindi l'interpretazione del passo di Matteo, insomma, radicale, data dagli anabattisti, viene vista come eversiva proprio della comunità civile e della comunità ecclesiastica ad un tempo, insomma. Questo è il punto fondamentale, direi, insomma. C'è proprio il commento, purtroppo appunto non l'ho qui, il commento di Lutero a Matteo, che è tutto in senso anabattista su questa posizione qua, insomma. Ecco. con ragionamenti che sono in fondo perfettamente paralleli a quelli dei teologi cattolici, insomma. E non si potrebbe questo discorso, tanto per ravvivare, io ricordo nel dibattito sulla pace, violenza, eccetera, autori protestanti attuali, ricordo per esempio anche Ricca, valorizzano molto queste posizioni dei cosiddetti settari, delle sette, anche per loro sette, come gli anabattisti, i menoniti, eccetera, come praticamente come coloro che hanno avuto e hanno tutt'oggi una incidenza politica. Loro li hanno emarginati, ma forse su un discorso di Totaro Lutero sarebbe da collocarsi tra coloro che, pur avendo fatto una rivoluzione religiosa sul piano politico, poi sono sulla regolarità, nel catalogo dei regolari, cioè di coloro che stanno per dare valore al politico in quanto mantiene l'ordine, l'unità, eccetera. Mentre questi elementi settari delle sette sarebbero interpretati come coloro che sarebbero nel catalogo degli irregolari, che stanno per la parte di una storia in movimento, di una rivoluzione dell'ordine costituito, ma per riordinare in maniera più vicina all'escaton, ecco, più vicina agli ideali escatologici, messianici, la realtà cristiana. In questo senso forse certo. Si potrebbe, utilizzando anche la relazione di ieri sera e anche tenendo conto di questo tentativo che fanno adesso anche nell'ambito protestante di considerare come frutto della riforma protestante coerente anche questi movimenti piuttosto carismatici, utopistici. Cioè. Chi c'era? Il nome di Thomas More, no, vieni, no, una parola sola mentre arrivavi qua. Ecco, per me Thomas More, visto la mia angolatura, è il martire del giuramento, insomma, perché viene condannato per rifiutarsi di giurare, sì. Sostanzialmente. Cioè, si trova proprio a questo incrocio o metamorfosi di cui parlavo io prima, insomma. Sì, mi chiamo Schiera. Io volevo intanto ringraziare perché mi pare che questo incontro abbia, io l'ho sentito solo, potevo seguire solo a metà, anzi forse meno, però mi pare che sia stato molto suggestivo, no? E forse farò adesso una breve domanda di integrazione che può essere superflua perché può darsi che di queste cose avete parlato quando io non c'ero, insomma. Ecco, direi questo, che in questo parlare di teologia e di politica, sia ieri che oggi, cioè la prima relazione e l'ultima, io ho sentito soltanto, si è forse un po' parlato poco del soggetto, cioè di quella roba, di quell'ente che, tutto sommato, dovrebbe essere, insomma, il punto di arrivo e anche il punto di partenza della teologia e della politica. Cioè, questo andare e vieni fra le due sfere, ecco, in che modo, con quali effetti, anche storici, ma anche antropologici, coinvolge gli uomini, coinvolge l'uomo, in che cosa cambia l'uomo, il soggetto, attraverso tutti questi così complicati meandri, no? Che abbiamo visto, che sono probabilmente alcuni fra i tanti possibili che si possono individuare nel rapporto fra le due sfere. E allora anche a Paolo vorrei dire questo, uscendo però volutamente dalla logica del giuramento, perché ovviamente è una logica che, se la si segue, ti costringe anche l'interlocutore a ragionare in termini tecnici e quindi come dire, all'interno di una problematica che è sicuramente più ridotta della problematica generale della teologia politica, anche se nell'ipotesi di Prodi può essere una problematica altamente rappresentativa di quest'altra, no? Quindi io adesso esco dal discorso giuramento e non ne voglio parlare, ma ti chiedo invece questo. Tu dici, se ho capito bene, perché ogni volta che ti sento in realtà noi abbiamo una consuetudine di lavoro molto intensa, quindi voglio dire, ne parliamo spesso di queste cose, però effettivamente devo dire che ogni volta sono temi così grossi che vengono fuori nuove piste, nuove prospettive. Io delle volte ho la sensazione di aver capito male la volta prima, di aver capito male stavolta qui, eccetera. E io ti dico, tu mi pareva che dicessi, nell'ipotesi, insomma, premoderna, no? Pre-riformata, pre-confessionalizzata, eccetera, tu dici c'è questo dualismo e all'interno di questo dualismo si gioca, insomma, la scommessa e l'impegno politico e l'impegno esistenziale della gente. D'accordo, è un dualismo, però a me pare che è un dualismo che però è all'interno di un sistema che è fondamentalmente unitario e compatto. È un bipolarismo più che un dualismo, di un qualche cosa che non ha buchi e che non ha contraddizioni al suo interno. Per quanto tra imperium e sacerdozium ci possa essere una diversificazione, entrambi sono due terminali di una stessa realtà che è profondamente unitaria, che è profondamente compatta e che coinvolge interamente l'uomo nella sua interezza. L'uomo non ha dubbi e non ha neanche libertà, per ritornare a Ratzinger, in modo assolutamente esterno. Tutto questo, secondo me, evidentemente caratterizza l'età premoderna. Nell'età moderna, certo, è vero che la confessionalizzazione porta la Chiesa, insomma, comunque questa sfera, a in qualche misura assumere dei modi di funzionamento e anche forse di legittimazione politici, così come la secolarizzazione porta probabilmente la sfera del politico ad assumere, secolarizzandoli, elementi, diciamo così, sacri o santi, insomma, è vero. E quindi apparentemente c'è un processo di osmosi, ma è un processo solo apparente, perché in realtà qui il bipolarismo diventa veramente dualistico, perché ciascuno dei due poli si autonomizza e acquista o pretende di acquistare legittimazione per sé indipendentemente dall'altro. E nel far questo, certo, è anche comprensibile storicamente che ci sia questo riferimento a modelli altrui. Ma il fatto che si passa da un bipolarismo all'interno di un sistema compatto unitario a un dualismo vero e proprio di sistemi libera spazio al soggetto. Questo è quello che a me interessa. Cioè è solo a questo punto che salta fuori la possibilità per il soggetto di scegliere e di non essere costretto fin dall'inizio, quasi geneticamente, a accettare il sistema nel suo complesso. Allora qui viene fuori il discorso della responsabilità, lo dico perché è un discorso caro a Nicoletti, ma il discorso della responsabilità lo vedo meno presente, lo vedo meno possibile nella situazione precedente che in questa. Ecco, io non lo so se questa ricostruzione, che per forza di cose doveva essere brevissima e molto schematica, coincide, non coincide, ha a che fare, non ha a che fare con le cose che hai detto tu, Paolo, no? Ecco, però te le confondi. Tengo a fare perché l'intervento è importante sulla dimensione natura, cultura, no, Israele che a differenza degli altri, eccetera. Quindi come prima cosa vorrei ribadire, in che senso, ma certo non intendevo dire che Israele vive solo della parola di Dio, anzi sappiamo che è un popolo il cui orizzonte di terrestrità così fortemente sottolineato in tutto l'arco dell'Antico Testamento, almeno, che non si possono nutrire dubbi al riguardo. Ma, ecco, dicevo, mi sembra che la formula così abbia una sua di suggestione, anche una sua capacità di far pensare. La terra non è il punto di partenza, ma il punto di arrivo, proprio perché appunto di arrivo allora viene tanto maggiormente valorizzata, ma al tempo stesso, poiché non è il punto di partenza, ecco, non è la radice, non è ciò da cui io traggo l'identificazione irreversibile, insuperabile, come è di fatto nelle religioni naturalistiche. Ecco, allora questo stacco, questa rottura nei confronti della radicazione e identificazione con lo spazio, con l'habitat su cui si costituisce, nel cui rapporto poi si costruisce anche tutta la cultura, ecco, questo mi sembra ci sia davvero nella storia dell'Esodo, venga poi ripreso dai profeti, eccetera. Ovviamente, questa è una tipizzazione, perché poi Israele, dice Israele a sua volta, vuol tornare nel grembo della natura, e appunto allora i profeti, soprattutto Osea, picchierà sodo su questa cosa. È una tipizzazione, ma penso che noi non possiamo non procedere per tipizzazione. Devo però addirittura precisare, stamattina non potevo farlo, così strettezza di tempo, che addirittura c'è una tipizzazione al quadrato. Cioè, primo, una tipizzazione descrittiva, direi sociologica in qualche modo, ecco. Ed è quello di dire in Israele complessivamente si avverte questa tipologia a differenza della tipologia delle religioni naturalistiche. A questo può arrivare proprio anche il sociologo, ci arrivava anche Max Weber, che riconosce già nell'Antico Testamento i primi albori del disincanto. Ecco, allora c'è la tipizzazione proprio nel senso weberiano del tipo ideale epistemologicamente. Ma io ho usato anche, in quanto teologo, e credo di doverlo fare, no? Una tipizzazione nel senso ideale normativamente, che è diverso. Non è solo diverso. E cioè c'è una linea che va in una certa direzione, che poi di fatto la storia di Israele blocca, ma poi c'è la figura normativa, appunto il profeta, che attacca quella linea e riporta alla purezza originaria, forse non originaria in senso storico, no? Perché forse la vera origine sono i profeti stessi, no? Originaria nel senso, ecco, di una fu allora più che una purezza, forse una specie di pienezza utopica, se vogliamo, una pienezza normativa. Ecco, allora io certamente ho usato insieme tutte e due gli ideali più possibili, cioè tutte e due, e quello weberiano e quello, ripeto, credo, di chi lavora con figure che sono insieme figure del vissuto, ma al tempo stesso figure del come dovrebbe essere il vissuto. E sono, credo, le figure più adatte. Sì, su questo avrei finito. Posso aggiungere una cosina solo dopo su un altro punto che mi è stato così suscitato dall'intervento, l'ultimo si chiama schiera. Ma quello che ho cercato di dire io, ecco, stamattina in sostanza direi era tutto un po' la costituzione del soggetto del teologale in quanto costituzione del soggetto politico. Solo l'ultima parte, o in qualche modo la conclusione, ho parlato dell'opera, cioè del momento dell'oggettivazione, ecco. Ma di per sé tutto il percorso, almeno i primi tre punti, no? il diletto che si sa tale e poi il diletto che si sente eletto al servizio, ecco, a mio avviso sembra proprio la costituzione del soggetto politico, cioè del soggetto capace di rapportarsi con gli altri umanamente, se vogliamo, o più che umanamente, ecco, di rapportarsi al secondo verità, di fare giustizia, o di meglio di operare secondo giustizia, ecco, di costruire una polis secondo il disegno di Dio, allora nel senso detto, tutto questo è un discorso su che cos'è o qual è il soggetto. E a questo proposito vorrei anche riprendere brevemente un accenno fatto da te prima, no, a Ricca e alle le pagine, no, così, della tradizione protestante, le pagine degli irregolari. Degli irregolari che in nome della una specie di anticipazione della fine, ecco, predicano il pacifismo assoluto. Io di fronte a queste cose sono sempre molto così. Ogni ricorso alla fine, sia pure la riserva escatologica, mi lascia quantomeno scettico. Intanto perché è molto ambivalente. Perché gli anabattisti anticipavano la fine con una specie di pacifismo assoluto, Münzer in nome e qui esiste Zeit, sollecita i contadini a impugnare le armi. Ormai è il tempo di rovesciare. Certo, anche lì in ordine a... No, in ordine poi a una società pacifica, ma in qualche modo anticipando quello che diventerà poi, no, la eterogeneità tra i mezzi e il fine, noi costruiamo una società pacifica attraverso la rivoluzione violenta. Allora, queste cose, perché dico è essenzialmente ambiguo? Ma perché della fine, dell'escatologia, noi non sappiamo assolutamente nulla. E le poche o tante immagini che ne abbiamo nella Bibbia sono così delle delineazioni del desiderio in cui c'è tanta verità quanta ce n'era nella soggettività di chi le ha scritte. Allora il problema torna a essere quello del soggetto. Quanta c'è di giustizia, quanta c'è di verità, quanta c'è di dilezione nel soggetto, che in quel caso era un soggetto politico attraverso la scrittura. Non c'è di più, se ci atteniamo a un'accezione, direi così, sanamente critica, no, della rivelazione. Cioè, le parole sono dei prodotti di soggetti ispirati da che cosa? Ecco, ma ispirati dalla loro maturità spirituale, ispirati dalla loro capacità di fede e di amore. Ecco. Allora, ma qual è il massimo? In fondo che cosa dicono, ecco, quei soggetti? A mio avviso non c'è espressione più bella della fine che quello, ecco, e non piangeranno più, e Dio asciugherà le lacrime dai loro occhi. Che cosa vuol dire? Ecco, vuol dire una compiutezza, non pianger più è detta a modo di negazione, no? Ma è la compiutezza che viene dalla tenerezza, che viene appunto dalla dilezione. Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. Ma chi può pensare Dio così? Dove mai Dio è comparso come la Madonna di qua o di là a dire io sono così? Da nessuna parte. È dal cuore dell'uomo che, ecco, che sente dentro di sé quella dilezione, che capisce che non c'è gesto, che se vogliamo così, no, la società politica buona in nuce è nell'asciugare le lacrime, non nel far piangere così domani non piangerà più nessuno, ma è nell'asciugare le lacrime. Quindi non in nome di una, no, di una fine che funziona come riserva escatologica. La riserva escatologica è quella anticipata dentro quel tanto di verità che abbiamo di fede e di amore. Questa è una serie di affermazioni ideali normative. Bene, io vedo che il tempo va avanti, allora volgendo verso la fine, in questo senso sono escatologico, credo a un contenuto anche di orario, allora io direi che per non lasciare poi senza parola coloro che sono stati poi protagonisti, chiedo al professor Prodi se ha da dire qualche cosa di risposta, eccetera, poi passa la parola se vuole a Cerbi, poi il professor Perone, poi il professor Totaro e poi al Nicoletti. Quindi è meglio che adoperiamo quest'ultimo tempo per queste risposte. Cominciamo da lei. No, io ho pochissimo da dire, sì. E solo la parola a schiera, dicendo che credo di essere d'accordo con quello che ha detto, diciamo, ecco, su questa linea appunto di sviluppi dei diversi dualismi dalla cristianità come contenuto globale, ha invece una assimilazione della totalità di parti di ciascuno dei due poli. Ecco, questo è un po' il problema. Punto di vista potrei esemplificare con la giustificazione che mi ha dato nel 1934 per il giuramento dei parroci del Reich a Hitler, il giuramento di fedeltà a Hitler, nel richiamo a Lutero, cioè nel richiamo ad una coerenza che si era sviluppata in questi secoli e che non lasciava spazi ad altri tipi di obbedienza, insomma. Cioè questo è diciamo, lo sviluppo ultimo. Quello che io mi domando, ecco, è se appunto quali forme, ecco, il dualismo, il cristianesimo è capace ancora di fornire alla nostra società, al nostro futuro, il dualismo di cui credo abbiamo bisogno proprio in funzione del soggetto, in funzione della persona. Io credo che sostanzialmente però siamo usciti dall'età moderna e le forme che abbiamo vissuto fino a pochi decenni fa non sono più valide. Questo è lo stesso tipo di, appunto, sacramentalità che in qualche modo, con la quale in qualche modo il giuramento ha mantenuto in questi secoli questo difficile equilibrio tra l'invisibile e l'invisibile, debba lasciare posto a nuove forme. Insomma, ecco, quindi la mia era una domanda reale, ecco, una domanda credo che riguarda la persona e il soggetto oggi di fronte a questa cosa che probabilmente, se appunto nazismo e fascismo fossero state solo, come un tempo si tendeva a ritenere, delle manifestazioni patologiche all'interno invece di un glorioso mondo liberal democratico destinato a far conciliare tutte queste cose in questo progresso senza fine, allora non ha senso questo. Se invece la resistenza di Bonhoeffer, insomma, di fronte al nazismo, voglio dire, viene inquadrata in questo tipo di percorso più ampio, insomma, ecco, in cui appunto il problema non riguarda soltanto la degenerazione nazista, ma si estende al nostro problema di oggi, ecco, allora probabilmente appunto quello che volevo dire poi in tutta questa mia chiacchierata è che l'analisi della dinamica storica ci può forse permettere di essere meno rigidi, ecco, nel confronto dell'oggi e del futuro, insomma, cercare di capire che le cose sono state in modo diverso anche all'interno dello sviluppo del cristianesimo occidentale e che probabilmente appunto, anche su questo piano, non solo per la monarchia papale che era vissuta fino a pochi decenni fa come essenziale per il mantenimento dell'indipendenza della Chiesa, della sovranità della Chiesa, ovviamente ci sono altre forme che si debbono sviluppare analogamente nel rapporto politico. Grazie professore di queste conclusioni. Se vuole Acerbi dire qualcosa. Scappa? No, per carità, no. Perché devono essere brevi anche. Due cose, dichiaro il mio profondo interesse per la relazione del professor Prodi, di cui lo ringrazio, a titolo propriamente personale, perché io sto facendo una ricerca sul problema del divieto di giuramento nella Chiesa antica. È un problema gravissimo perché è un evidente caso di discrasia tra prassi e teoria, perché tutti giuravano e si diceva che non bisognava giurare, no? Dall'alto al basso si giurava e questo è un grosso problema. E l'altro problema è che dobbiamo evitare la retroproiezione sulla esperienza dell'età neotestamentaria e dell'età successiva delle categorie degli interessi medievali moderni. Cioè il problema è se il divieto di giurare va posto in relazione o no con date a Dio, quel che di Dio è Cesare, quel che di Cesare. O se in realtà tutto il problema fosse da collocare nella prossimità totale del regno di Dio e non nella distinzione tra ambiti. È un problema molto, molto grosso in cui, rispetto a cui le riflessioni del professor Prodi sono estremamente stimolanti, per questo proprio io sento di ringraziarlo di cuore. L'altra osservazione invece è relativa alla mia breve relazione questa mattina. Io pregherei chi avrà la bontà di rileggere di tener conto che non ho voluto affrontare il problema di come sia possibile un funzionamento decente del sistema sociale attuale, quali siano le condizioni, no? E questo apre un'enorme serie di problemi nel rapporto tra etica e politica, tra procedure e fondamento veritativo, eccetera. Io ho voluto soltanto dire come ha reagito sul piano ideale la riflessione cattolica alla sfida della società liberale. Questo era molto limitato, no? E che lasciava molti interventi erano totalmente veri, profondamente validi, ma leggermente spostati rispetto all'oggetto proprio della mia relazione. Questo però, questa osservazione non vale per l'ultimo intervento che faceva notare come nel sistema liberale è vero che non esistono governanti nati in funzione, cioè, di un titolo pre-politico al potere, però nella ricerca del consenso si fa appello ad una causa, a dei valori, probabilmente a degli interessi, interesse nazionale, interessi locali, interessi di ceto, di classe, degli interessi. I partiti sono l'istituzionalizzazione di interessi. Allora, qui c'è tutta la dialettica tra interesse e valore, e tra interessi particolari e interesse generale. Benissimo, tutto questo è verissimo, però non si governa perché l'interesse o perché il valore a cui si appella è giustificato in sé, è apprezzabile in sé, ma perché ha raccolto il consenso. Perché se fosse per il titolo sostanziale, si avrebbe il diritto a governare anche se si è in minoranza, anche se non si ha il consenso. E questo è il punto discriminante. Se si ha un titolo sostanziale, chi ha quel titolo ha diritto a governare, prescindendo dall'adesione, perché è il fondamento veritativo che mi dà titolo al governo. È il problema della rivoluzione, non conta affatto che una rivoluzione socialista sia stata sostenuta soltanto dal 10% dell'elettorato e che il 90% sia contrario. E non conta che ora sia soltanto l'1% che lo vuole sostenere e il 99% sia passato su opinioni contrarie. Il problema è che la rivoluzione socialista non è negoziabile, è vera, è l'espressione della dottrina sociale giusta. Ecco, e questo mi sembra che differenzia profondamente il sistema. Il sistema liberale vuole il consenso attorno a una causa, attorno a un interesse, attorno ad un valore di libertà, poniamo, ma non è per questa causa che si è legittimati, ma per aver avuto il consenso. Questo pone il problema allora se c'è una causa cattiva che ha la maggioranza. Cioè, le procedure per sé sono aperte a esiti opposti. Si può avere una democrazia totalitaria, si può avere, cioè, e quindi le procedure per sé sono ambigue e quindi esigono un correttivo etico, ma questo è esterno al sistema, è una condizione del suo buon funzionamento, non è il titolo di legittimazione del potere, no? Questo mi sembra allora di dover accettare l'ultima osservazione, ma con questa piccola precisazione. Grazie. Grazie. Se il professor Perone vuol dire qualcosa. E il professor Totor invece? Sì, dovere, sì. Quello che diceva prima Prodi, poi Schiera, poi anche altri interventi di oggi, mi portano a fare qualche precisazione sulla domanda fondamentale, molto ponderosa, che poneva in particolare Schiera quando si chiedeva e ci chiedeva in che cosa cambiano gli uomini nel rapporto teologia-politica. E quindi solo un filosofo che ha la passione per le astrazioni può cimentarsi con una domanda di questo calibro. Allora io vorrei dire questo molto brevemente. Quello che si ha nel processo del moderno non è soltanto la manifestazione dei dualismi, questo interessa in modo specifico la struttura del politico, ma il processo della manifestazione dei dualismi si inserisce nel processo più ampio della costituzione delle autonomie. Quindi c'è uno squadernamento rispetto ad una realtà compatta, per usare una metafora che può rendere il concetto. E allora che ne è di uomini che vivono all'interno del sistema, all'interno del quadro o dello squadernamento, per meglio dire, delle autonomie? Che ne è degli uomini in questa nuova situazione. Ma rispetto alla nostra prospettiva, alla prospettiva che abbiamo discusso in questi giorni, a me pare che la conseguenza che si deve tirare da questa situazione di squadernamento delle autonomie è che i valori e le legittimazioni, e quindi tutto ciò che fa da cemento alla impalcatura politica, non si possono imporre, diciamo così, per decreto. Questa disponibilità a giustificare le strutture politiche perché impositive dall'alto, viene meno. Ecco, laicizzazione vuol dire anche questo. Quindi abbiamo uomini laici, potremmo dire, innanzitutto. E allora, in una situazione del genere, se sostituiamo con un po' di arbitrio a uomini soggetti, diciamo che i soggetti diventano i soggetti non delle imposizioni ma delle opzioni, ecco, non delle obbligazioni ma delle disposizioni dal basso. E allora il principio di responsabilità, inteso forse non in senso weberiano, mi sembra di capire, diventa molto importante. Ecco, però qui dobbiamo fare molta attenzione, a mio avviso, perché non c'è da fare una retorica dei soggetti e né una retorica della soggettività, anche perché noi sappiamo che buona parte del pensiero filosofico contemporaneo è impegnato nella esibizione della dissoluzione del soggetto. Questo tema non l'abbiamo toccato, ma noi non dobbiamo dare per pacifico il darsi di un soggetto con la ricerca dei significati e del senso che da questi significati possa venire. Non voglio aprire questo capitolo, ma voglio dire che è un problema fondamentale per la cultura oltre che per la filosofia di oggi. Allora mi pare che si possa dire questo riguardo a tale tematica: quando la divaricazione delle autonomie rende impossibili opzione e responsabilità, allora si entra nella patologia dell'essere uomo e dell'essere soggetto, cioè si entra effettivamente in quella sfera della dissoluzione del soggetto, costituita dal fatto che invece di esserci la capacità di tenere un senso nelle proprie esperienze, si impone, prevale un atteggiamento puramente funzionale rispetto alle diverse sfere che si sono rese autonome. Quindi si ha una risoluzione dell'esperienza in una disposizione funzionale alle autonomie che si sono espresse nel moderno. In sostanza io distribuisco nella sfera del lavoro, nella sfera della famiglia, nella sfera del consumo, nella sfera della clientela politica o di una politica intesa come clientela. In tutto questo possiamo continuare a parlare di soggetto come colui che dispone responsabilmente delle proprie azioni e quindi può compiere delle opzioni? Ecco, mi pare che dovremmo rispondere no ad una domanda del genere. Cioè, qui saremo in presenza di una vera e propria patologia dell'uomo contemporaneo, e questo mi sembra che sia un problema di trasformazione culturale e di trasformazione antropologica. Come far fronte a questa situazione? Il riferimento ad una offerta di lezione è molto importante, per esempio, ed è molto importante anche per dare consistenza ad un pensiero utopico, però a me pare che un messaggio di dilezione, un annuncio di dilezione, esiga anche la capacità di assumere un impegno e la capacità di dare forma a questo impegno. Cioè la dilezione richiede una fedeltà, la fedeltà richiede una percezione unitaria di se stessi, Quindi richiede una capacità di tenere responsabilmente la direzione verso un senso. Ecco, allora a me pare che oggi sia importante per chi voglia cimentarsi con questi problemi, che sono problemi, ripeto, culturali e antropologici, mi pare che sia importante capire che c'è un compito di produzione del senso, che è un senso per il soggetto, radicato però sempre nelle oggettivazioni storiche. Quindi allora l'importanza della politica di nuovo. Ma tutto questo è un cosmo da costruire, insomma, si tratta di trovare cespiti di diversa legittimazione, si tratta di elaborare una serie di valori che siano credibili sia per la formazione del soggetto sia per l'espressione dell'impegno che dal soggetto può portare alla sfera politica e quindi alla sua trasformazione in quella direzione utopica su cui abbiamo insistito in questi giorni. Grazie, professore. Allora, ha diritto di avere l'ultima parola colui che ha avuto la prima parola e l'ha realizzata con la fatica di un dossier di cui di nuovo lo ringraziamo, ma sono felice che ho sentito dall'esperienza, dalle voci di coloro che l'hanno letto, che veramente è stato un utile contributo alla buona riuscita di questo nostro convegno. Se hai da dire dunque qualche cosa. Certamente il professor Totaro aveva riaperto il dibattito con Rizzi, ma è inutile che stiamo qui di nuovo a ripensare questi discorsi. Sì, volevo dire solo brevemente alcune cose. La prima, mi sembrava giusto rilevare la positività di questo convegno, di questo seminario, e soprattutto del metodo interdisciplinare. Io, occupandomi del problema della teologia politica, ho notato come questa difficoltà i teologi hanno nelle loro bibliografie, le bibliografie teologiche, mentre invece chi si occupa di filosofia politica o filosofia del diritto ha una bibliografia appunto di filosofia politica. Quindi in Italia c'è questa separatezza tra le diverse discipline che va superata, e credo che da questo punto di vista il confronto, ecco, in questi giorni sia stato positivo. Il secondo elemento che mi sembrava importante rilevare è questa provocazione a una nuova periodizzazione che è emersa da alcuni interventi, in particolare dall'ultimo del professor Prodi, ma che riprende una linea, ecco, di alcuni storici, tra cui anche il professor Schiera e anche altri. Questo ripensare la periodizzazione usuale che noi abbiamo. Forse gli schemi del Medioevo, della modernità e della postmodernità sono schemi un po' stretti, all'interno dei quali non riusciamo forse più a capire questi temi della secolarizzazione della teologia politica. Quindi questo ecco, mettere in discussione la periodizzazione abituale e utilizzarne altre, per quanto possano essere ovviamente discutibili, credo che sia uno strumento estremamente fecondo. Queste indicazioni quindi ultime che vengono mi sembrano preziose. L'ultimo accenno è il problema dell'analogia, su cui era incentrato un pochino le provocazioni ultime del dossier, e su questo volevo dire due cose. Mi pare che vi sia un senso debole dell'analogia, cioè come strumento euristico di ricerca in un campo che non è più a nostra, diciamo, immediata disposizione. E questo è un campo da battere dal punto di vista metodologico. Credo che anche qui l'interdisciplinarietà sia proficua, andare alla ricerca delle relazioni, delle somiglianze strutturali che vi sono nelle diverse discipline o nelle diverse istituzioni sia un lavoro estremamente proficuo. Ma poi c'è anche il tema dell'analogia in un senso, ecco, più forte. A me pare che se appunto non è forse più riproponibile o sia pericolosa un'analogia in senso tradizionale, si possa però recuperare un'analogia appunto in senso diverso, che cioè sia un'analogia che mantiene al suo interno il tema della differenza e anche del conflitto tra i due diversi poli. Da questo punto di vista mi è sembrato molto significativo che sia stato evocato all'inizio e alla fine del convegno la figura di Tommaso Moro, perché la figura di Tommaso Moro è una figura appunto di questa duplice fedeltà, ma di una duplice fedeltà a due poli che sono in conflitto tra di loro. E in Moro poi troviamo un altro tema tipico di questa analogia, che non è più un'analogia fondata su una ragione che può passare con una continuità dal temporale al sovratemporale, ma è un'analogia che ha bisogno del simbolo, del mito, dell'utopia. E il terzo elemento è un'analogia che si gioca non più sul piano del sistema sociale, ma all'interno della coscienza stessa. Il tema dell'utopia di Moro appunto richiama l'utopia platonica, che non è lo stato da costruire all'esterno, ma è lo stato da costruire all'interno della coscienza. Da questo punto di vista la figura di Moro mi sembrava importante, perché ripropone anche un tema che io ritengo interessante dal punto di vista della riflessione teologica politica, ed è il tema del silenzio. E cioè il tema del silenzio credo che sia uno di quei temi su cui lavorare appunto in modo interdisciplinare, perché è un tema che interessa sia la teologia che in qualche modo la riflessione sul politico. Esiste un silenzio a cui il politico costringe, e quindi c'è la rivendicazione del diritto di parola, però esiste anche la rivendicazione del diritto al silenzio, è la rivendicazione di Tommaso Moro, che in qualche modo gioca tutta la sua battaglia sulla possibilità del silenzio. E poi esiste anche il silenzio scelto come momento di risposta di fronte al politico, e qui c'è il silenzio di Cristo di fronte a Pilato, quando Pilato, che capisce, domanda che cos'è la verità, e Cristo tace. Mi sembra che questo sia un luogo biblico importante per una riflessione sulla teologia politica. Con questo tema. Grazie. Con quest'ultima battuta, in questa ultima battuta mi riferivo a lui, ma sono contento che sia venuta la battuta di Mani per lui. Noi possiamo ringraziare Dio di aver concluso con una certa utilità, almeno in quanto ci ha problematizzati, questo nostro convegno. Io, scherzando dentro di me, dicono che non ci sono più nati nativamente ex natura politici, cioè destinati per natura ad essere gestori del potere. Mi sembrava invece di vedere che qui dentro ci sono delle persone che nativamente sembrano essere veramente costituiti per fare politica anche in senso attivo, ed è un compiacimento questo. Sì, proprio un compiacimento anche per quanto riguarda il modo di esprimersi. Le conferenze, le relazioni che abbiamo ascoltato avevano una retorica, direi, proprio legata unicamente alla veicolazione di pensieri e di esperienze. Non era una retorica che nascondeva il vuoto o nascondeva un puro problematizzare. Cioè, abbiamo ascoltato delle relazioni dense di contenuti e anche formulate con una varietà di formulazioni, di espressioni degne proprio anche di una cultura superiore. Forse, ecco, il merito è di avere centrato il discorso sull'analogia. Questo lavoro inteso come l'hai espressa tu, questo lavoro interdisciplinare, di cui io sono tanto patrono, e che è una delle risposte per i problemi della complessità del futuro, convocare più persone di mondi diversi perché parlino la loro lingua, ma si intendano Pentecoste, e addirittura costruiscono un linguaggio molto più ricco e pluriforme, dipende dal fatto che ognuno ormai non resta nel suo gergo. Ognuno, avendo abitudine ad ascoltare il gergo degli altri, intesse anche la ricchezza del suo parlare. La molteplicità di lingue, ma non in quanto parlate separatamente, ma in quanto anche le gestite all'interno di un soggetto, il soggetto singolo, per comunità e gruppo, chiesa, io penso che sia un dono, che sia anche un miracolo, e sia senz'altro anche una conquista. Questa abilità di parlare mutuando un linguaggio, nei primi tempi potrà sembrare che ancora non ci si intenda, ci si passa lo specchio, diceva Barthes, ognuno non parla più o si guarda solo da solo nel suo specchio, ma accetta lo specchio degli altri. Ma pian pianino, superata questa prima fatica, ecco che si diventa capaci veramente di un linguaggio pentecostale, pur nella chiarezza, nella densità, nella distinzione anche di discorsi. Ecco. Riassumendo un po', io direi che tutto sommato noi abbiamo non scaricato il politico in questi giorni, non lo abbiamo svilito, lo abbiamo ricaricato almeno come desiderio, proprio perché lo abbiamo deideologizzato, desacralizzato e soprattutto perché lo abbiamo storicizzato in senso più pieno, pieno, non una storicità che distrugge, che annulla, che fa voltare le pagine per non lasciare niente, ma perché costruisce un discorso di analogia ma in senso anche storico. Allora io concludo con questa battuta. Ieri mattina, o stamattina, stamattina non so più dove vivo, ho citato un passo del Concilio decisivo per questa storicizzazione qui a Cervi Esperto. Est soppresso, subsistit in. Tutto ciò che è realtà ecclesiale c'è, ma non è. Poi ho citato stamattina, la Chiesa non è il regno, ma è per il regno. E cito questa sera, concludendo, il numero 5 era stamattina, il numero 48 della Lumen Gentium. La Chiesa stessa, per fortuna è stato detto, con le sue istituzioni, i suoi sacramenti, appartiene alle cose di questo mondo che passano, è nella storia. Ecco il problema di una valorizzazione della Chiesa in quanto è storicità. Sembrava prima che per valorizzare la Chiesa, il cristianesimo, bisognasse proprio identificarla con l'escaton. Oggi si comincia, ed è la nostra fatica, scoprire che per valorizzare la Chiesa, questo soggetto dell'unità, quindi un soggetto suo modo politico, bisogna valorizzare la sua storicità. Forse all'interno però della Chiesa qualche assoluto rimane, qualche concezione assolutistica rimane, questa paura di storicizzare tutto, supponiamo l'autorità, ecco, sembra quasi che soprattutto nella Chiesa l'autorità, soprattutto quella suprema, sia ancora dentro uno schema di deificazione, si ha paura quasi di sottoporre a questa legge della storicizzazione, che pure il Concilio ha accettato per tutta la Chiesa come globalità, di sottoporre a questo processo di storicizzazione qualcosa nel suo interno. Mentre se vale il tema che già qui nella storia c'è un anticipo dell'aldilà, è l'uomo imago Dei. Il primo vicarius Dei, il primo vice Dio è l'uomo. Non basta quindi il lavoro di Monsignor Maccarone per dire che nel primo millennio non era il Papa solo che veniva chiamato vicarius Dei, ma erano tutti i vescovi. Ma noi, se andiamo a Paolo con il battesimo, ogni cristiano è vice Cristo, è alter Christus in forza del battesimo. Ma se andiamo alla Genesi, ogni uomo è imago Dei, quindi la storicità piena. E allora, se è vero che ogni uomo è imago Dei, per il politico, per la politica, deve valere che tutti gli uomini sono imago Dei. Ecco il discorso della persona finalmente messa al centro. Non messo al centro il principe, il capo, ma la persona. Ed è con insistenza anche di Rizzi, che riecheggia l'America Latina, allora se è vero che tutti, ogni uomo è imago Dei, partiamo dall'ultimo, da coloro che noi tenteremo di emarginare dall'oppresso, da colui che non ha identità di imago Dei. Ecco dunque una insistenza, mi pare, abbastanza globale su questo discorso. Poi mi piacerebbe la fine, ma lo faremo dopo, quando leggeremo gli atti, di fare, secondo lo schema suo, ecco, l'elenco, il catalogo, non più degli irregolari e degli irregolari, ma il catalogo di tutte quelle tematiche sfaccettate del politico e del religioso, per fecondarli insieme, per arrivare un po' tutti a pensare meno razzisticamente chiusi nel nostro mondo e più con questo linguaggio dialogico che se ci fa sperimentare la parzialità della nostra specializzazione, del nostro piccolo mondo, ci fa però entrare in un nuovo concetto di universale, in una nuova esperienza dell'universale, che è quello che include altre parzialità, perché tutto, finché siamo nella storia, è fatto soltanto di parzialità che aspirano all'unità, che è soltanto escatologica. L'ultima battuta è l'escato. Grazie a Dio, speriamo che l'anno venturo possiamo fare un altro convegno che ci conduca verso l'Eschaton. Un grazie a nome anche di Monsignor Roger, il quale non è potuto venire ma mi ha delegato. Non sono il principe, il delegato del principe, a ringraziarmi. Grazie. Ciao.